25 aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus. Trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini. La storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate, da martedì 21 al 25 aprile, su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto! Benvenuti alla quarta puntata della maratona di lettura con La carezza e la mitraglia, un romanzo di resistenza a Marzabotto per il 25 aprile 2020. Iniziamo subito con il riassunto delle puntate precedenti a cura dell'autore Massimiliano Gollini. Buon ascolto. La carezza e la mitraglia. Riassunto. Un uomo torna dalla guerra. Arriva alla stazione dei treni e a stento riconosce la sua città. Con sé non porta nulla, tranne i suoi ricordi e una promessa che ancora non conosciamo. Aprile 1945. Tre soldati si stanno avvicinando al nascondiglio di Anima. La cecchina partigiana è appostata da ore, pronta a uccidere con un colpo di precisione Walter Reder, comandante del battaglione di SS responsabile delle stragi di Montesole. Anima sembra spacciata. Ha una sola possibilità di salvarsi: sparare ai tre tedeschi e scappare nel bosco prima che la guardia di Reder si accorga di lei. E così accade. Ma le difficoltà non sono finite. Dopo gli spari, le SS mandano un giovane soldato in esplorazione nel bosco. I due si vedono. Bologna occupata dai nazisti. Il 25 settembre 1943, Elena e l'amica ebrea Albertina sono sorprese da un bombardamento alleato ed Elena è ferita al petto da una scheggia. Da qualche tempo Elena sogna Odino. Ma in questo periodo i sogni si fanno più intensi. È il suo unico modo per rimanere in contatto con il ragazzo che ama, visto che le lettere arrivano sempre più di rado e comunque censurate. Il 7 novembre 1943 Albertina viene deportata da Auschwitz. È l'ultimo passo. Elena reagisce. Raggiunge il compagno Silvano, con il quale aveva iniziato da tempo una lotta clandestina e antifascista, e pretende un'azione concreta. Quella notte porterà Tritolo a una banda partigiana scesa dalla montagna proprio per incontrarla. Ma la situazione degenera e finisce in uno scontro armato. Elena trova una pistola tedesca e per la prima volta spara. E uccide. Dalla mattina dopo si arruola nella Stella Rossa, brigata partigiana di stanza a Montesole, vicino a Marzabotto. Viene reclutata come cecchina da Ghiaccio, comandante del branco, un gruppo di specialisti. Ghiaccio ha combattuto sul fronte del Don e si è portato in Italia Miscia, esperto in strategie militari. Con loro, Ultimo, il bombarolo, Mezzanotte, abile con il coltello, e Orso, che conosce molto bene il territorio. La carezza e la mitraglia di Massimiliano Gollini. Legge Yvonne Capece. Aprile 1945, martedì, ore 15:21. Anima. Non smise mai di guardarlo negli occhi. Lo odiava. Un sentimento inconfondibile. Avrebbe voluto mangiarlo vivo. Sparargli era troppo facile. Il ragazzo invece non seppe reggere lo sguardo. Fissava la Walter, poi il bosco, poi ancora la pistola, poi il casolare. Ma non lei. E a parte gli occhi, non si muoveva. Anima non sparò. Il comando del cervello era partito già da tempo, ma l'indice sul grilletto non si mosse. Si sorprese di se stessa. Non aveva un motivo per non fare fuoco. Non sparò e basta. E il tempo prese a scorrere a una velocità diversa. Passò un anno intero. Sui rami dei faggi le foglie divennero grosse e verdi e le margherite sbocciarono, ricamando i prati con piccoli bottoni bianchi e gialli. Poi le nuvole ripresero a correre e portarono la pioggia. Le foglie si seccarono, le margherite appassirono e l'erba si fece più sottile. Iniziò a cadere la neve, prima lentamente, poi come bufera. Aveva coperto tutto, cancellato ogni traccia. Ma alla fine, anche la neve passò. Quando la primavera fece ritorno, lei aveva lo stesso sguardo di prima e lui stava ancora tremando. Il soldato allungò lo zaino in avanti e lo lasciò cadere a mezzo metro da lei e alla fine la guardò, indeciso. Poi prese il mitragliatore della canna, appoggiò il calcio a terra e usando l'arma come bastone scese verso valle, aspettando la morte arrivare da dietro. «Spara, spara e scappa e falla finita», pensò, ma non sparò. Non era mai successo che avesse risparmiato un tedesco esitando nel compiere ciò che fino a quel momento aveva considerato come il suo dovere. Dopo aver visto i tedeschi all'opera sul campo, aveva fatto un patto con se stessa e aveva lasciato fuori dalla sua vita qualunque forma di pietà. Aveva aperto una parentesi, accettando di infilarci dentro una durezza d'animo estranea. Quella parentesi era rimasta aperta, almeno fino a quel momento. Tenne la Walter puntata sulla schiena del ragazzo, seguendo il suo cammino fin quando non raggiunse il casolare. Solo dopo averlo visto sparire, dentro uno dei due garage, si rese conto che stringeva l'impugnatura così forte che le nocche della mano sinistra erano diventate bianche. Sollevò l'arma e la fece cadere accanto a sé, come per liberarsene. Si guardò il palmo. Due profondi solchi segnavano la pelle, dove il calcio della pistola aveva una leggera scanalatura. «Stupida che sei», si disse. «Resta concentrata». Prese il fucile e lo puntò contro il casolare cercando la finestra con il cannocchiale. Lo vide subito. Raeder era in piedi al centro della stanza e poco distante una donna puliva la superficie bianca della vasca usando un panno. La guardava con occhi severi mentre con la mano si massaggiava il braccio sinistro, monco. Si sporse in avanti e prese lo zaino gettato tra i cespugli dal giovane soldato. Restava una sola frittella e una borraccia d'acqua. Tastò la tasca esterna ed estrasse i caricatori della pistola, infilandoseli nella giacca. Poi sistemò lo zaino di lato e prese il fucile. Lo guardò in ogni sua parte e cercò di capire se avesse subito qualche danno. Sollevò lo sportellino e vide che il proiettile era ancora al suo posto. Era l'unico che aveva. Il piano non prevedeva errori. Muovendosi con cautela, Anima si tolse la giacca e la sistemò sui cespugli, stendendosi a pancia sotto, creando un varco tra il verde. Aveva una visuale perfetta. Vide di nuovo il ragazzo. Era uscito dalla rimessa e stava camminando verso il centro dell'aia dove c'era una delle camionette. I tedeschi avevano ricominciato a muoversi tra gli automezzi, forse con un po' di frenesia e preoccupazione in più. Evidentemente tutti gli esploratori erano tornati dalle loro ispezioni con esiti negativi e anche il giovane soldato non aveva rivelato ciò che aveva scoperto. Lo prese di mira con il cannocchiale, riflettendo sulla situazione. Perché non l'aveva denunciata? Non aveva visto il fucile di precisione? Non aveva capito che era lei la colpevole di quelle uccisioni? Forse era convinto che non dire niente gli avrebbe permesso di portare a casa il bottino insieme alla pelle. Per un istante le sembrò che il ragazzo guardasse nella sua direzione, vide i suoi occhi attraverso il cannocchiale, erano due lame di granito. Avevano dunque un patto, poteva fidarsi. Lui sapeva dov'era lei e lei sapeva dov'era lui. Restò concentrata sul giovane per un po'. C'era tutto il tempo per prendere decisioni. Thank you. la carezza e la mitraglia. Legge Anna Maria Grandi. Maggio 1944, martedì, missione a Elita, Elena. Il branco era sparpagliato su uno spuntone di roccia, mentre la luce obliqua di quel tardo pomeriggio di maggio accendeva l'arenaria come se fosse lava. Sembravano stambecchi appena sfuggiti alla caccia di bracconieri. Ghiaccio e Miscia erano seduti sulla parte alta della roccia, mentre Orso e Mezzanotte stavano più sotto, uno con in mano la borraccia dell'acqua, l'altro sdraiato a guardare le nuvole in movimento. Rimasero lì, in silenzio, con gli sguardi persi ovunque e le orecchie come antenne, pronti a intercettare il richiamo di Ultimo che era appostato di vedetta nel bosco. Elena si sporse verso il dirupo. Una corrente di aria calda saliva con forza dal basso e guardando la vallata poteva vedere i corvi fare grandi planate senza battere le ali. Aprì le braccia, lasciando che la brezza le passasse attraverso i vestiti, come faceva sempre. Poi chiuse gli occhi e inspirò. Restò a oscillare nella corrente fin quando non ebbe l'impressione che il vento la portasse via. Quando fu in movimento, si fece trasportare verso l'alto, senza opporre resistenza, assaporando quella stessa vertigine che provava quando si arrampicava sulla quercia davanti alla villa e guardava la città. In volo sopra la montagna, sentì l'aria ripulirla dalle scorie della guerra, dalle radiazioni che le facevano tremare i muscoli, dalla paura incontrollata. Rimase sospesa, come una giovane aquila alle prese con il suo primo vento, e solo molto dopo virò a destra, planò e atterrò su un quadrato di erba e muschio lì vicino. L'avevano chiamata missione a Elita e portarla a termine fu un inferno. Un soldato di nazionalità sconosciuta era stato paracadutato nei pressi di Belvedere, con una grossa radio indossata come se fosse uno zaino, e preso in carico dalla brigata Giustizia e Libertà. Il comando alleato aveva deciso di far atterrare il soldato oltre la linea gotica, in una zona di alta montagna non presidiata dai tedeschi. Andava prelevato e accompagnato fino a Rastignano, vicino a Bologna, dove sarebbe stato aggregato a un gruppo partigiano cittadino e condotto nell'Istituto di Geografia dell'Università, dove un gruppo del Partito d'Azione aveva installato una ricetrasmittente. Quella radio rappresentava il più potente mezzo di comunicazione presente sul territorio, dalla Romagna fino a Modena, pianura compresa. Nemmeno i tedeschi avevano una radio così. Uno dei problemi più difficili da superare in quei mesi di guerra era proprio il coordinamento fra le truppe. Gli alleati che si trovavano a sud della linea gotica e i gruppi partigiani che premevano da nord comunicavano tra loro con tutti i mezzi disponibili, ma raramente potevano. Razzi segnaletici, staffette, perfino il passaparola, tutto ciò che si faceva aveva grossi margini di errore e comportava sacrifici umani. Per questo motivo la missione aveva un'importanza strategica incalcolabile. Erano partiti il giorno prima per raggiungere Vergato e subito avevano lasciato la valle per seguire il sentiero fino a Rocca di Roffeno. Orso li aveva condotti attraverso il bosco, evitando le zone abitate e i principali sentieri, tenendoli lontani dai territori nei quali si pensava ci fossero tedeschi. Si erano arrampicati sulle montagne ed erano scesi dai versanti opposti, seguendo il passo svelto imposto da ghiaccio e fermandosi solo per riempire le borracce ogni volta che trovavano una sorgente. Elena, come sempre, camminava in mezzo al gruppo. Era ordine di Miscia, che gestiva l'organizzazione del branco. Nel caso di un'imboscata, Lei avrebbe dovuto allontanarsi, trovare un riparo e colpire i tedeschi da lontano, usando il carcano. Quando arrivarono alla pieve di Santa Lucia, era mattina presto, e lei era così nervosa che nemmeno il male alle gambe e ai polmoni riuscirono a calmarla. Cercò di tranquillizzarsi controllando in continuazione il caricatore del fucile, inserendo e togliendo, ma niente servì. Guardava il volto dei suoi compagni e si sorprendeva nel vederli così sereni e concentrati. In confronto a loro si sentiva come una bambina al primo giorno di scuola. Ghiaccio le lanciò l'ordine con un gesto del mento e lei si staccò dal gruppo per raggiungere un grande abete solitario dall'altra parte della strada. Vide il branco disporsi a semicerchio attorno alla sacrestia e Ghiaccio bussare 3 volte alla porta. Fu un prete ad aprire. Era un vecchietto con un grosso crocefisso di legno appeso al collo e 2 occhialini rotondi. Parlarono sottovoce per un po', poi il parroco rientrò. Anche se non era riuscita a sentire niente, sapeva che si erano scambiati la parola d'ordine. Si guardò attorno in cerca di qualche movimento, poi si mise in posizione di tiro. Poco dopo, la porta si aprì di nuovo e ne uscì un giovane alto e dal fisico atletico. Indossava una divisa color terra, nuova di zecca, e aveva la pelle di una tinta che non aveva mai visto prima. Le ricordò il colore del caffè e latte, solo con una dose di caffè in più. Sembrava spaesato e dalla sua espressione si poteva intuire che non capiva quello che stava succedendo. Quando si girò di lato, Elena vide che sulle spalle portava un grosso zaino quadrato. A metà pomeriggio arrivarono nei pressi di Prunaro di Sopra e lì si accorsero che quelle 4 case erano occupate da una pattuglia di tedeschi. Fu Orso ad alzare il pugno per primo. Quando Elena lo vide gettarsi a terra, iniziò a correre verso destra, risalendo il pendio nel bosco per nascondersi dietro un cespuglio di more. Sui gradini della chiesa 5 soldati tedeschi sedevano di fronte a 2 donne che avevano portato loro una cesta di vimini piena di verdura. Dovevano sentirsi al sicuro perché avevano appoggiato a terra i fucili mitragliatori e ridevano prendendosi gioco delle 2 malcapitate. Dal suo appostamento Elena vedeva solo la schiena delle donne, ma ugualmente riusciva a percepire la loro aura dimessa e povera, fatta di vestiti rappettati alla meglio, di teste chine, di sguardi incollati sulla ghiaia. Sentì un brivido d'odio scuotere la spina dorsale e arrivare fino alla punta delle dita. Strinse il fucile con più forza. Alzò gli occhi verso la grande casa padronale che affacciava sulla piazzetta e notò che da una delle finestre al piano terra 3 bambini osservavano la scena in silenzio. Prese di mira la testa di uno dei 5 soldati, ma quando guardò Ghiaccio per ricevere l'ordine, il comandante le fece segno di abbassare il fucile. Stava parlando con Misha, a distanza ravvicinata. Per come la vedeva lei, non c'era motivo di aspettare. Le linee di tiro erano tutte libere e in quel momento un'imboscata avrebbe avuto ottime possibilità di riuscita, ma il comando non arrivò. Appena le 2 donne tornarono in casa, il russo strisciò fino a Orso a mezzanotte. Poco dopo i 2 si inoltrarono nel bosco, aggirando la chiesetta sulla destra, e quando raggiunsero il retro dell'abside si divisero in 2. Poi intervennero. Fu un'azione rapida ed Elena si sorprese ancora una volta di come mezzanotte fu in grado di raggiungere i tedeschi senza farsi sentire. Da una distanza di 3 metri lanciò il coltello, colpendo un soldato proprio alla nuca. Poi aggredì l'altro usando un secondo pugnale. Sulla destra Orso saltò addosso a 2 soldati con tale velocità che i tedeschi crollarono sotto il suo peso come se fossero stati investiti da una camionetta. Elena vide tutta la scena restando in posizione di sparo, pronta a fare fuoco se Ghiaccio gli avesse fatto il segno giusto. Ma non ricevette l'ordine, nemmeno quando il quinto soldato si infilò di corsa nel bosco. Si ritrovarono di fronte alla chiesa e si strinsero le mani, senza parlare, guardandosi attorno con aria preoccupata. Di solito i tedeschi si muovevano in pattuglie di 10 uomini e c'era la possibilità che il quinto soldato desse l'allarme. In quel caso l'imboscata l'avrebbero subita i partigiani. Ghiaccio le spiegò che non aveva dato l'ordine perché se ci fossero stati tedeschi nei boschi, lì attorno, il suono dello sparo li avrebbe raggiunti molto prima del gruppo in fuga. Ordinarono alle donne di lasciare lì i corpi e di tornare in casa. Se i tedeschi fossero arrivati avrebbero dovuto dire che i partigiani erano andati verso ovest, indicando zone opposta rispetto a quella che in realtà avrebbero preso loro. Davanti a Elena c'erano le due donne viste prima e una terza, più giovane, che stringeva i tre bambini con un braccio. Un maschietto scalzo, che doveva avere 8 anni, e due bambine più piccole, arruffate e sporche. Ebbe l'impulso di avvicinarsi a quella giovane madre per conoscerla, per farsi raccontare la sua storia, anche solo per abbracciarla. Però, quando decise di muoversi, si sentirono gli spari arrivare dal bosco. Iniziarono a correre verso valle e Orso ordinò di saltare in un canalone nascosto da una parete di roccia. Appena arrivarono in fondo, si accorsero di essere soli. Risalirono la vetta dalla parte opposta e si fermarono allo spuntone di arenaria a riprendere fiato. Accanto a lei c'era il soldato straniero. Era un po' frastornato per la corsa e sembrava stanco. Si avvicinò sorridendo e lui le allungò la mano destra. Dopo la presa, Elena trattenne la mano e guardò da vicino la sua pelle. Era morbida, giovane. Pensò che il colore si avvicinasse più al cioccolato al latte, ma si sentì stupida, perciò gli disse «scusa» e guardò di lato. Lui sorrise, con aria distratta. Poi tolse il berretto, si grattò una tempia e accompagnò il gesto con un nome. «Kaik!» «Eh?» Si appoggiò una mano sul petto e ripeté «Kaik!» «Ah, bene!» «Elena!» rispose imitando il suo gesto. Poi aggiunse «Io ho 20 anni!» Scandì le parole come se questo lo aiutasse a comprendere meglio, ma ovviamente non servì. Quando se ne rese conto si sentì di nuovo stupida. Si chinò e strofinò il terreno ripulendolo dai sassi. Con il dito indice scrisse il numero 20. «20», disse ancora. Lui capì. Cancellò il numero e scrisse 23. Poi disse «Brasil». Sottolineò il nome con un gesto del braccio per indicare la direzione dalla quale era venuto. «Brasile», ripete lei. «Sim, Brasil. Io vengo de Manaus». Lei lo guardò affascinata dal suono di quella lingua. Non aveva mai sentito una cosa del genere. Era una specie di musica dove le parole erano note rotonde che si annodavano tra loro. «Dove?» domandò. «Manaus», rispose lui. E aggiunse «Incontrado n'Amazonia». Esattamente un geurio negro incontra un rio Amazonas. Non aveva capito niente, ma sorrise divertita. Era proprio una bella lingua. Si domandò cosa ci facesse un brasiliano lì con loro tra quei boschi. Pensò di chiederglielo, ma le sembrava un argomento molto difficile da affrontare. Tuttavia Kaik capì il suo sguardo. «Forza brasileira», disse. «Istamos come aliados, aliados». «Ah sì, alleati, americani». Finalmente riusciva a capirci qualcosa. Si voltò verso valle e sospirò. Poi disse «Io, Bologna, giù, nella pianura». «Ben», commentò il ragazzo. Elena guardò la grande radio che aveva lì accanto. Era una grossa scatola con una lunga antenna che partiva da un lato, si alzava verso il cielo disegnando un semicerchio e si infilava nuovamente nel metallo nella parte opposta. Sul retro aveva due spallacci di cuoio che servivano per trasportarla. «Ium otimo radio, ma spesa muito», disse il soldato, accompagnando lo sguardo della ragazza. Per un attimo Elena pensò di spiegare che anche Odino era un soldato addetto alla radio, ma questo era proprio un discorso inaffrontabile. Aprì lo zaino e prese una borraccia. Beve un sorso d'acqua. Poi la offrì a Kaik. Aspettò che il soldato bevesse, la riprese e si arrampicò sulla roccia raggiungendo mezzanotte. «Sei stato grande», gli disse. Lui le strinse la mano guardandola negli occhi. «Ne hai fatti fuori due», disse ancora. «Uno è scappato». «Non hai quattro mani». «Ho fatto un errore». «Lo dovevo ammazzare io», disse lei per rincuorarlo. «Se tu avessi sparato, a questo punto saremmo tutti morti». Lei spostò lo sguardo dell'uomo alla vallata. La vista dei boschi la rastrenò. «Non può andare sempre al meglio. Siamo vivi, tant'è». «Sì, ma dobbiamo essere precisi. Altrimenti non facciamo il nostro bene il nostro dovere. Dovevo ammazzare anche il quinto». «Forse hai ragione», disse Elena, lasciando la mano del compagno. «Cerco solo di essere positiva, ecco. Abbiamo un po' di strada da fare. Non pensarci su troppo». Si alzò cercando ghiaccio e fu in quel momento che il segnale d'allarme lanciato da ultimo la raggiunse. Lì per lì lo confuse con il richiamo di un falco, ma con l'arrivo di quel suono tutto il branco si alzò di scatto, imbracciando le armi. Elena raggiunse di corsa lo spuntone di arenaria e si sdraiò pancia a terra in posizione di tiro, guadagnando una visuale perfetta sulla piccola radura e sul bosco. Se i tedeschi fossero arrivati all'improvviso, avrebbe iniziato a sparare senza aspettare ordini. Ma dal bosco non arrivò nessuno. Dopo qualche minuto di attesa, il bambino che avevano lasciato fra le braccia della giovane donna sbucò dagli alberi come un cerbiatto in fuga. Fu Misha a bloccarlo, poco prima che lo slancio lo facesse precipitare nel dirupo. Era ancora più sporco di come l'avevano visto e notò che indossava vestiti da adulto adattati alla meglio. Urlava e piangeva come se fosse stato punto da un intero vespaio. Si guardava attorno impaurito e più vedeva uomini più si dimenava. Elena si inginocchiò accanto a lui, poi gli diede uno schiaffo così forte che le venne male al palmo della mano. Il bambino la guardò sorpreso e la paura si trasformò in rabbia, però smise di urlare. Cominciò a parlare in dialetto velocemente, era peggio che ascoltare Kaik. Aveva avuto quello stesso problema ai tempi di Silvano, ma lì tra le montagne tutto si era complicato. La gente di quei posti parlava un dialetto ben più stretto e incomprensibile di quello che si usava in città. «Orso!» chiamò Ghiaccio. L'omone si avvicinò e si sedette di fronte al bambino. Si guardarono in silenzio per qualche istante, con l'aria di due che si studiano prima di un combattimento. Poi Orso gli parlò in dialetto e il piccolo rispose: «Dice che li stanno ammazzando tutti». «Chi stanno ammazzando?» chiese Ghiaccio. «Hanno deciso di fucilare tutti, sua madre, le bambine, tutti». «Lui com'è arrivato fin qui?» Orso glielo chiese e il bambino raccontò come erano andate le cose. Iniziava ogni frase lentamente, ma subito si faceva prendere dall'ansia. Le parole gli uscivano dal petto, incastrandosi una all'altra. Li hanno radunati nell'aia. Sua madre l'ha spinto fuori dalla finestra, sul retro, e gli ha detto di venire da noi. «Quanti soldati sono?» chiese Ghiaccio. Il bambino alzò le mani, segnando sei con le dita. «Erano proprio una pattuglia», disse Misha. Ghiaccio guardò il bambino e disse: «Beh, comunque sia, non possiamo farci niente. È troppo pericoloso. Elena lo guardò incredula. Non poteva pensare che avrebbero lasciato morire quelle persone. Raccolse le forze e, preso l'uomo per un braccio, trascinandolo un po' indietro, «Posso farcela», disse sottovoce. «Neanche per idea. Andiamo, ghiaccio, non possiamo abbandonarli. È troppo pericoloso». Elena distorse lo sguardo e proprio con un filo di voce disse: «Siamo noi la causa di questa situazione, non lo capisci? Quelle persone moriranno per colpa nostra. Siamo qui per salvare questa gente, non per mandarla a morire». «Abbiamo una missione», la rimproverò lui. «E la missione è più importante di qualche civile». Sentendo quelle parole, Elena si voltò in segno di disprezzo. Era confusa e arrabbiata e si sentiva il petto stretto da un laccio di cuoio. Guardò il bambino e ascoltò in silenzio i suoi singhiozzi. Si sorprese molto quando sentì Ghiaccio parlare. «Dimmi cosa hai in mente», chiese il comandante. Per paura che cambiasse idea, Elena parlò tutto d'un fiato. «Vado giù con Orso, tagliamo per il bosco e aggiriamo il borgo. Mi apposto a 100 metri in sicurezza. Se la situazione lo permette, li faccio fuori tutti, altrimenti lascio perdere». «Ti conosco, non lascerai perdere. Ti farai ammazzare». «Parla con Orso. Digli di portarmi via se il rischio è troppo grosso. Sai che può farlo». Lui si girò, sospirò e poi chiamò Misha e Orso, che arrivarono subito, lasciando il bambino con i gemelli. «Che cosa succede?» domandò Misha. «La ragazzina qui ha avuto la splendida idea di salvare quelle persone. Vuole andare giù». «Immaginavo», disse il russo. Poi guardò Ghiaccio e fece sì con la testa. Si rivolse a lei, spiegando il piano. «Hai una sola possibilità. Devi aspettare che siano tutti vicini, perché non avrai il tempo di prendere bene la mira. Fai fuoco solo quando saranno schierati per sparare. Aspetta che stia per arrivare l'ordine, poi spara a chi comanda. Se tutto andrà bene, i soldati si prenderanno paura. In quel momento devi ammazzarli tutti. Hai capito?» Lei deglutì con forza, scavando fino allo stomaco per trovare le parole giuste. «Saranno proprio di fronte alla gente, Misha. Se sbaglio, potrei colpire un civile». «E allora non sbagliare. Oppure lascia perdere». «Portala al lato sud», intervenne Ghiaccio rivolgendosi a Orso. «Dovete mettervi alle spalle dei tedeschi». «Nessun problema», rispose l'omone. Elena lo guardò e sentì di volergli un gran bene. «Valuta bene la situazione, perché lei non ha l'esperienza per farlo», riprese Ghiaccio. «Conta i tedeschi e se sono più di 6 portala via. Se siete troppo lontani, portala via. Se la via di fuga non è sicura, portala via da lì. Mi hai capito bene? Non ho nessuna intenzione di perdere 2 uomini. Non preoccuparti. Vi do 15 minuti, poi vi voglio qui». 15, sottolineò Orso, «al massimo. Altrimenti scenderemo noi e non chiederemo la carta d'identità a nessuno». «Va bene». Ghiaccio si rivolse a Elena e, anche se era alto come lei, ebbe l'impressione che la guardasse da una torre. «La tua perdita sarebbe molto più grave della morte di tutti quei civili», disse. Elena lo guardò per qualche istante, poi si girò verso il bosco. Iniziarono a scendere il declivio correndo nella penombra della foresta. Poi girarono a destra per mettersi sul lato sud, come aveva detto Ghiaccio. Sentiva il cuore pompare sangue come i pistoni in un diesel, e più correva, più la rabbia prendeva il sopravvento. Cercò di avvicinarsi a Orso perché i rami degli alberi gli arrivavano in faccia. Ma l'uomo procedeva a grandi falcate e per lei fu difficile stargli dietro. Quando il compagno si fermò, sbatté con forza contro la sua imponente schiena e cadde a terra. Lui nemmeno se ne accorse. «Ci siamo», disse l'omone. Senza alzarsi, seguì la direzione del suo braccio e vide il retro della chiesa, la piccola aia e la facciata della casa. Contro il muro erano allineate almeno 15 persone, in due file, tutte donne, tranne un vecchio con il cappello in mano e la barba lunga. C'erano anche tre bambine, due le aveva già viste e si tenevano strette le gambe della giovane donna. La terza era in braccio alla ragazza e non poteva avere più di un anno. Riconobbe che era una bambina perché aveva in testa una cuffia rosa con i lacci di lana legati sotto il mento. Si guardò attorno, faticava a ragionare, presa com'era dalla corsa, dall'ansia e dalla pressione che improvvisamente l'aveva invasa. Si sforzò di fare lunghi respiri, ma non riuscì a controllare il ritmo cardiaco. «Non so dove stendermi con tutti questi rovi», sussurrò. Orso valutò la situazione. Poi fece una cosa sorprendente. Si sdraiò su un cespuglio di more, offrendole riparo. Lei scivolò in avanti e appoggiò i gomiti sulla schiena dell'uomo, cercando la posizione più comoda per il tiro. Si accorse che la protezione di cuoio per la spalla si era spostata durante la corsa, così appoggiò il fucile di lato e con gesti rapidissimi allentò i legacci. Sistemò il tutore e strinse di nuovo tutto. Poi riprese l'arma e si mise in posizione. Guardò verso la piazzetta, poi disse: «Quando te lo dico, trattieni il fiato». I tedeschi arrivarono da sinistra. Raggiunsero l'aia alla spicciolata. Sembravano un gruppetto di adolescenti all'uscita da scuola. «Io ne conto 5», disse. «Il cinno ha detto 6», rispose Orso. «Si sarà sbagliato». «Aspetta, eccone un altro. Era dietro il pozzo. Madonna, stava pisciando. È senza armi questo, è senza rispetto». «È il caporale. Fallo fuori per primo». Elena li guardò uno a uno attraverso il mirino del fucile. Riconobbe il tedesco sfuggito all'agguato di mezzanotte. Era l'ultimo del gruppo e aveva già la mitraglietta puntata. Quando videro i tedeschi formare il plotone, le persone iniziarono a urlare e a piangere e tutti si chinarono a terra cercando un improbabile riparo nell'angolo tra il muro e il selciato. Si inginocchiarono tutti, tranne la giovane madre. Lei rimase in piedi, con la bambina in braccio e le altre due attaccate alla sottana. Non si mosse di un centimetro. Aveva uno sguardo deciso, puntato dritto verso i tedeschi e non lo abbassò nemmeno quando il comandante ordinò di prendere la mira. Fu quello sguardo a riportare Elena al suo ruolo. Il cuore sembrò fermarsi e il respiro si placò. Sentì il sangue dare nuova vita ai muscoli, mentre l'odio prese il sopravvento su tutto. Abbassò leggermente il fucile per vedere meglio la scena, calcolò la direzione del vento, valutò l'inclinazione dei raggi solari, poi si riportò in posizione di tiro. 6 colpi, sussurrò. Tanto basta. E quando chiuse l'occhio destro, i tedeschi le apparvero grandi come montagne. Aspettò la sequenza degli ordini, trattenne il fiato e con un filo di voce disse: «Adesso». Il primo fu il caporale. Gli altri soldati si voltarono a destra giusto in tempo per vederlo cadere a terra. Elena sparò altri 4 colpi in rapida successione. Il bosco si prese gli scoppi restituendoli amplificati 1000 volte. I primi 2 soldati non si accorsero di niente. Altri 2 fecero appena in tempo a rendersi conto della situazione, ma furono colpiti alla schiena e cadere in avanti proprio ai piedi delle donne. L'ultimo uomo, quello sfuggito al primo agguato, iniziò a correre lanciando il fucile per essere più veloce, ma Elena lo colpì con l'ultimo proiettile. Alla fine restò in silenzio. Orso aveva ripreso a respirare e quel respiro diede a Elena la certezza di essere ancora viva. Le persone si guardarono attorno senza capire e anche i bambini avevano smesso di piangere. Lentamente tutti rientrarono in casa. La giovane madre per la prima volta diede un segno di cedimento. La vide piegarsi in avanti per appoggiarsi sulle ginocchia, mentre la ragazzina più grande le prendeva la piccola dalle braccia. Restò là, in un angolo della piazzetta, sola e spaesata, seduta a terra con le mani fra i capelli. Si guardava attorno, in attesa che il lio del bosco uscisse dalla foresta per spiegarle come stavano le cose. Elena la guardò, cercando di capire cosa fare. Avrebbe voluto scendere, ma qualcosa di incomprensibile le impedì di farlo. Alla fine si alzò, mise il carcano sulla spalla e diede un calcetto al fianco di Orso. «Forza!» disse. Poi si incamminò sulla montagna. La carezza e la mitraglia. Legge Nicole Vighi per Sblocco 5. Aprile 1945, martedì, ore 16. Anima. Aveva bisogno di una pausa, troppe emozioni, troppe situazioni da affrontare. Occorreva tanta razionalità. Guardò il casolare e i boschi attorno. Cercò di capire se ci fosse qualche altra novità in arrivo, ma la situazione le sembrò tranquilla. I tedeschi stavano ancora lavorando ai mezzi di trasporto, anche se molti erano già finiti. Sembravano proprio furgoncini per il trasporto merci. Avevano escogitato un piano perfetto. Guardò i tre soldati morti. Nessuno reclamava la loro assenza. Non erano attesi. Meglio così. Alla fine le cose si erano sistemate, con un po' di fortuna. Riportò lo sguardo sul casolare e chiuse gli occhi. Avrebbe potuto tener conto di quella sensazione di inadeguatezza provata, rispagnando il giovane soldato, lasciare la missione e dimenticare tutta quella storia. In fondo nessuno l'avrebbe punita. Era un'azione che si era scelta e i suoi compagni, ovunque fossero, l'avevano lasciata andare senza opporsi, sapendo che la guerra stava finendo e interpretando quella missione come una questione privata. Eppure non se ne andò. Era curiosa di provare la sensazione di avere la vita di Röder tra le mani. Non le costava niente aspettare. Abbassò la mano nella tasca della giacca ed estrasse la lettera. Era umida, ma sembrava reggere bene i segni della guerra. Per un momento Anima lasciò andare il fucile, prese la busta con entrambe le mani e la guardò in controluce. Non vide nulla che non avesse già visto altre volte. Dentro c'era un foglio di carta ripiegato. Se lo stringeva tra l'indice e il pollice, ne poteva sentire lo spessore, più pronunciato verso il centro, esile ai lati. Guardò attentamente, ma non c'era modo di capire cosa c'era scritto su quella carta, sempre che ci fosse scritto qualcosa. Si girò verso il cielo di quella primavera ancora acerba. Senza la giacca sentiva freddo, ma non ci badò. Appoggiò la busta sul petto e spinse forte con entrambe le mani, ascoltando il battito accelerato del cuore calmarsi lentamente. Quando le sembrò che avesse raggiunto il ritmo normale, chiuse gli occhi e si concentrò sul lento passare del tempo. Senza accorgersene, si addormentò. Carezza e la mitraglia. Legge Cristina La Tessa. 26 giugno 1944, lunedì. Elena. Cosa fai quassù? Aveva la mente così rapita dal paesaggio, da quell'aria sospesa e silenziosa, che non aveva sentito ghiaccio risalire l'albero. Si era arrampicata sulla quercia quasi un'ora prima, e anche se aveva visto il sole abbassarsi sulle montagne, si trovava in una dimensione in cui il tempo non scorreva. Si girò appena verso il basso. L'uomo si era aggrappato all'ultimo ramo disponibile, sedendosi proprio dove il tronco si divideva. Si sistemò in modo da non dargli le spalle, guardandolo divertita. Poi disse: «Provo a vedere qual è il punto migliore per gettarmi di sotto». Dal suo sguardo intuì che l'uomo non aveva capito il tono della voce. Poi sorrise. «Penso che un punto valga l'altro», disse. «Così ti cavi dalle balle una volta per tutte. Ti piacerebbe». «E come?» «Io mi prendo il carcano». «Col cavolo. Quello viene nella tomba con me». «Ragazzina, se vuoi una tomba, è meglio che prima di gettarti di sotto scendi e te ne scavi una». Ghiaccio si spostò sull'altra parte del tronco e finì per sedersi accanto a Elena. Fissava la distesa verde con un'espressione fiera e apprensiva, come se quei boschi minacciati dalla guerra fossero di sua proprietà. «Stavo guardando le montagne», disse lei poco dopo. «Sono sicura che da qui si vedono boschi liberati, anche se non so riconoscerli». «Vedi il cimone laggiù?» chiese l'uomo. Elena inquadrò la montagna alta a più di 2000 metri. Una leggera foschia calda ne sfocava i contorni. In quella stagione la cima era ancora coperta di neve, ma più a valle i pendii erano di un verde intenso. Non disse niente. «Da lì spostati verso sinistra», continuò Ghiaccio. «Quello è il corno alle scale, e accanto c'è la Nuda. Sotto, Porretta Terme. Ancora a sinistra. Segui la linea dell'orizzonte. C'è una collina più alta delle altre, anche se ha il profilo arrotondato. È il Passo della Futa. E dall'altra parte c'è Firenze. Tutto quello che vedi da lì in poi è territorio libero, o quasi». Elena cercò di immaginare la linea gotica, assorbendo in un solo sguardo quella parte d'Italia dove i nazifascisti erano già stati sconfitti. Cercò di trovare un angolo di bosco nascosto, laggiù, oltre quel confine immaginario, dove l'uomo mai vi aveva messo piede. Sospirò, poi disse: «Sono proprio vicini. Dicono che entro 2 mesi Bologna insorgerà». Guardò l'uomo per un attimo. Aveva un'espressione sospesa. «Non mi sembri convinto», disse. «Infatti non lo sono». «Ma gli alleati sono proprio lì», disse lei indicando tutto il paesaggio. «I tedeschi sono in una morsa, non possono farcela». Finalmente Ghiaccio distolse lo sguardo dalle montagne e si girò verso di lei. Fu serio, ma comprensivo. «Lo sai che più volte gli americani ci hanno tolto le armi dopo un'azione? Abbiamo combattuto con loro e siamo caduti con loro. E dopo aver portato a casa la vittoria, ci hanno disarmato». «Non ci credo». «Invece dovresti». «E perché lo hanno fatto? A chi è successo?» «Non a noi, ovviamente. Se dovesse succedere, piuttosto che consegnare le armi, iniziamo a sparare. Questo è sicuro. Però la fonte è certa». «Ma perché?» «Perché gli alleati temono i partigiani almeno tanto quanto i tedeschi». «Ma combattiamo insieme?» «Ne sei sicura?» «Io non credo. Agli alleati non piace per niente che siano i partigiani a liberare le città». «Ma a Firenze è successo così?» «O no?» «Sì, certo. Per fortuna sì. Ma non a Roma. Adesso sono loro che la governano. Sotto questa stessa guerra c'è un altro scontro molto più importante. Una battaglia che definirà il futuro della nostra terra. Se la liberiamo noi, sarà una cosa. Se la libereranno loro, un'altra». «Vuoi dire che ci libereremo dai tedeschi per essere invasi dagli alleati?» «Beh, non la metterei in questi termini. Però devi renderti conto che gli inglesi e gli americani odiano di più i comunisti che i tedeschi. Per come la vedo io, Stanno combattendo questa guerra pensando a come sarà l'Italia domani. La maggior parte delle forze partigiane sono organizzate e gestite dal Partito Comunista. Questo è innegabile. Hai visto anche tu i commissari politici, no? Lupo li odia, almeno mi sembra. Lui è un ribelle, ha le sue idee. Ma la Stella Rossa è solo una delle tante. Verso nord, fino alle Alpi, ci sono migliaia di partigiani. Secondo me agli americani non è andata giù che Firenze sia in mano ai comunisti. Cosa succederà quando i tedeschi se ne saranno andati? E questo è il punto. Non possiamo tirarci indietro, né adesso, né quando tutto sarà finito. Se non sapremo sfruttare questa possibilità, allora avremo combattuto per niente. Temo però che il dopo non arriverà prestissimo. Non sono così ottimista. La settimana scorsa sono andato giù al quartier generale, ricordi? C'erano anche quelli del Comitato di Liberazione Nazionale e una delegazione del Comitato Unico Militare Emilia-Romagna. Sono loro quelli convinti che ci sarà l'insurrezione entro settembre, ma fanno le loro valutazioni senza vedere come sono le cose qui sul campo. E poi lo sai che gli alleati sono sbarcati in Nord Europa? Perché dovrebbero disperdere forze qui da noi? E allora tutto questo? Chiese Elena allargando le braccia. Non so cosa risponderti. Tutto questo siamo noi. Magari mi sbaglio. Vedremo come si evolverà la situazione. Nel frattempo, sei sicura che i crucchi non se ne andranno con un arrivederci. Sono un esercito fortissimo, ben armato e organizzato. Io li ho visti combattere, da loro alleato e poi da partigiano. Ho sentito che stanno salendo dal sud battaglioni di SS. E la cosa non mi piace. Cosa sono le SS? Schutzstaffeln, squadre di protezione. Sono nate come guardia personale di Hitler, poi si sono trasformate in qualcos'altro. C'è chi dice che sono uno stato indipendente dentro la Wehrmacht, ma io non lo so. Quello che so è che sono militari diversi, spietati, addestrati per non lasciare testimoni. Li hai visti combattere? No, non credo. Miscia li ha visti. Da chi sono comandati? Heinrich Himmler, che è uno dei personaggi più influenti del Terzo Reich. E stanno venendo qui? Così sembra. Hanno visto muoversi sulla nostra direttrice un battaglione nazista guidato da Walter Reder. Un tizio senza un braccio, tagliato qui. Nel dirlo Ghiaccio segnò con la mano il braccio sinistro all'altezza del gomito. Li sconfiggeremo. Può darsi, ma non sarà una cosa facile. E prevedo momenti bui. La Stella Rossa è troppo grande e i partigiani non sanno neanche come si tiene in mano un fucile. Presenti esclusi, ovviamente. Ovviamente. Ho sentito che vicino all'abetone gruppi di partigiani hanno deposto le armi ancor prima di iniziare a combattere. Il movimento partigiano non è un esercito. Le maglie sono troppo larghe. Questa gente ha subito il regime fascista per decenni, senza aprire bocca, senza reagire e senza opporsi in nessun modo. E nemmeno vedendo la loro caduta sono insorti. Solo dopo che i fascisti si sono riorganizzati, dopo il ritorno del duce, dopo l'occupazione tedesca, la fame, la miseria, i morti ammazzati per strada, solo dopo tutto questo hanno reagito e sono nati i partigiani. Ma non siamo tutti soldati e di sicuro non siamo un esercito. Tanti sono ragazzi che hanno aderito al movimento per paura di arruolarsi nella RSI e si sono rifugiati tra le montagne per sfuggire ai rastrellamenti. Io non sono per niente sicuro che al momento del bisogno combatteranno per bene, proprio per niente. Non si era reso conto che la situazione fosse così complessa. La sua propensione a tenersi fuori da ogni posizione politica l'aveva portata a non affrontare quei discorsi. Combatteva per se stessa, per Odino, per riportare a casa Albertina, ovunque fosse. Combatteva per quei boschi e per i suoi abitanti, perché odiava i tedeschi e i fascisti. Poi c'era l'immagine dei partigiani che Ghiaccio aveva descritto, con parole così incisive. Lei si portava dietro un'idea diversa, fatta di eroi e combattenti, di guerriglieri senza paura, pronti a tutto pur di sconfiggere i tedeschi. Chi era veramente quella gente? Quali erano i motivi per cui combattevano? Il futuro era solo un'immagine dai contorni indefiniti e l'unica certezza che aveva era il ritorno di Odino. Si passò una mano tra i capelli e sospese i pensieri nell'aria tiepida di quel tardo pomeriggio di maggio, aspettando risposte che non arrivarono. «Mio padre è un fascista», disse. Le parole affiorarono inaspettate e quando si sentì pronunciarle si spaventò. L'uomo la guardò con un'espressione cupa, poi disse: «Cazzo dici?» «È così. Lui, insomma, è sempre stato un fascista, anche prima della guerra. Andava ai raduni che eravamo ancora piccole. La mia famiglia è proprietaria di un caffè giù a Bologna, proprio in via Indipendenza, che è la via più importante del centro. Lo so dove è via dell'Indipendenza. Da piccole, Elsa e io andavamo lì ogni sabato. Ci facevamo dare i biscotti caldi. Per noi era un castello di zucchero. Era il posto più bello del mondo. Mi sono rifugiata lì durante un bombardamento». «È uno con la scimice? Con cosa?» «La spilla del fascio, attaccata qui». «Oh sì, non se la toglieva mai. Da ragazzina la prendevo e la lucidavo. Mi piaceva. Non avevo idea di cosa ci fosse dietro. Mia sorella e io andavamo alle adunanze. Ci facevano fare ginnastica tutte assieme. Appena ho iniziato a capirci qualcosa, ho cominciato a odiare tutti i fascisti, mio padre compreso». «E quando hai imparato a capirci qualcosa? Perché anche adesso mi sa che hai le idee un po' confuse», l'apostrofò lui con un certo sarcasmo. Lei non se ne curò. «Nel 1938, due fascisti sono entrati nella nostra classe e hanno portato via una mia cara amica perché ebrea. Da quel giorno non è più tornata a scuola. Lì è iniziato tutto. Poi c'è stato anche dell'altro». «E che tu vedi le cose dal tuo punto di vista particolare e perdi colpi sulla visione d'insieme». «È così, lo ammetto». «Quindi non sei un'infiltrata? Ma smettila. Qui non ci si può fidare di nessuno». Elena lo guardò cercando di capire se era serio o no. Ma quando Ghiaccio vide il suo sguardo preoccupato, iniziò a cantare: «Allarmi, allarmi, allarmi, siamo fascisti, terror dei comunisti». «Tu cosa facevi prima?» gli chiese. «Ero un dirigente delle poste, qualifica che mi ha garantito i gradi nell'esercito e un posto in prima fila in tutte le guerre perse ovunque. All'inizio ci credevo in questa cosa dell'impero. Non sono mai stato fascista, ovviamente, ma nemmeno così comunista. Facevo la mia vita, senza farmi troppe domande. Però pensavo che l'Italia si meritasse la sua colonia, come tutti gli altri paesi europei, almeno i più grandi. Mi sembra di sentir parlare Odino. Quando è partito faceva i tuoi stessi discorsi, io non li ho mai capiti. Come ti ho detto tempo fa, aveva ragione lui. Comunque sia, ho cambiato idea presto. Vedere i miei ragazzi morire di freddo in Russia, abbandonati dall'esercito e dai tedeschi, mi ha aperto gli occhi. E dopo, cosa farai?» Lui aspettò un po' prima di parlare. Forse vide un lampo nei suoi occhi, come se si fosse fatto quella domanda molte volte, senza rivelare mai a nessuno la risposta che si era dato. Siccome non diceva niente, lo fece lei. «Io aspetto Dino», disse. «Sono una senza grandi pretese. Non so. Penso una cosa alla volta. Quando la guerra sarà finita e lui sarà tornato, vedremo. Ti auguro che ritorni presto, dico davvero. Grazie, Ghiaccio». «A me piacerebbe fare il professore a scuola», disse lui finalmente. «Lavorare con i giovani. Avevo anche iniziato l'università, lettere. Magari la finisco e inizio a insegnare». «Hai smesso per via della guerra?» «No. Ho smesso perché mi sono fidanzato e volevo mettere su famiglia. Dopo è scoppiata la guerra». «Davvero? Come si chiama lei? Hai notizie?» L'uomo non rispose. Elena capì che non avrebbe dovuto fare domande. «Scusami», disse. «Non volevo». «Non preoccuparti. Non è come credi. Comunque è una cosa di cui non vale la pena parlare. «Vorrei chiederti un permesso», disse Elena poco dopo. In realtà non aveva programmato la richiesta. Non ci aveva proprio pensato, fino al momento nel quale la frase si compose. «Per fare cosa?» chiese lui. «Vorrei andare a trovare una ragazza a Prunaro di sopra. È tra le persone che abbiamo salvato dalla fucilazione». «Perché?» «Non lo so. Forse solo per vedere se sta bene. Penso che abbia 4 figli. O forse... non lo so. Elena, sei una ragazza molto intelligente e valorosa, ma anche troppo sensibile. Ogni volta che prendi in mano il tuo fucile, devi pensare all'Italia, non a una persona in particolare, che sia Odino, la tua amica Albertina o questa donna qui. Lei ha già salvato la vita una volta, non ricapiterà, ne abbiamo già parlato». Lo disse con un tono deciso, che non ammetteva repliche. Non aveva considerato il carattere di Elena. La ragazza lo guardò senza un'espressione particolare. Conosceva bene il punto di vista di ghiaccio e non l'avrebbe condiviso neanche sotto tortura. «Rispondi a questa domanda, ghiaccio», disse. «Che Italia stiamo costruendo se non li salviamo tutti? Io non sono capace di pensare al dopo come fai tu. Il dopo non esiste. Oggi è il dopo. E oggi ci sono delle persone da scacciare e altre da salvare. Gli uomini e le donne, i bambini, gli animali, i boschi. È tutto un sistema. Come fai a non capire che lasciando indietro anche un solo gatto perdi la guerra che stai combattendo? Come fai?» Così dicendo, sfregò forte le mani sulla corteccia umida della quercia e se le portò al naso per sentirne l'odore. Poi aprì i palmi verso ghiaccio. Disse: «Ecco per cosa combatto. Se penso all'Italia non funziona». Ghiaccio guardò le sue mani. Tremavano appena. Se ne accorse anche lei. Così chiuse i pugni con forza. Ma lui le prese i polsi e se le portò al naso. «Ragazzina», disse, «tu parli troppo». Poi guardandola negli occhi aggiunse: «Vai, domani, mezza giornata. Al tramonto ti voglio qui. E lascia il fucile, altrimenti la spaventi». La carezza e la mitraglia. Legge Marco Gollini. Il cielo di maggio era un panno di tessuto fine, con piccole nuvole bianche e un vento basso che muoveva le foglie dei castagni e degli olmi. Uscì dal bosco poco dopo l'ora di pranzo. Incrociò il sentiero che portava a Prunaro di sopra e lo seguì fin quando non vide il campanile della chiesa. Aveva saltato il pranzo, ma dall'altra parte della collina trovò un tappeto di mirtilli già maturi. Si era tolto il fazzoletto dal polso e lo aveva riempito di frutti, mangiandone qualcuno mentre camminava. Erano grossi e dolci e lasciavano sulle mani un inchiostro rosso che a contatto con la pelle diventava viola scuro. Il primo ad arrivare fu un cane. Non l'aveva visto il giorno della missione a Elita. Era un bastardino dal pelo lungo, figlio di incroci di decine di generazioni, con una barbetta bionda e umida che pendeva dal muso lungo e affusolato. Arrivò al trotto tenendo la testa bassa e la coda diritta. Elena sentì il suo odore da 10 metri di distanza, ma quando arrivò non riuscì a trattenersi. Si inginocchiò e aspettò che il cane si avvicinasse con i suoi tempi, vincendo la diffidenza e facendosi accarezzare dietro le orecchie. «Bruttone che sei!» sussurrò. «Bruttone, puzzone d'un cane!» La bestiola si allungò e la leccò in viso, poi improvvisamente si tirò indietro e drizzò le orecchie. Si guardò attorno con aria sospettosa e tornò verso le case. Il bambino fuggito al plotone di esecuzione il mese prima stava camminando verso di lei, quando il cane lo raggiunse. Lui disse qualcosa che Elena non riuscì a sentire. Poi continuò a camminare mentre l'animale trotterava al suo fianco. Lo aspettò così come aveva aspettato il cane e quando il bambino arrivò era più basso di lei, anche se non si era ancora alzata. «Lunque, a nemmeno che anda guardia, a io provvedi snieri quel, a niente fer, leon can isme». «Ce la fai a non parlare in dialetto?» gli chiese. Lui non rispose. Elena ebbe l'impressione che avesse capito perfettamente e sapesse parlare bene anche l'italiano, ma che stesse decidendo se assecondare la sua richiesta o farla cadere nel vuoto di una lingua sconosciuta. Prese dal tasca il fazzoletto nel quale aveva messo i mirtilli e lo aprì davanti al bambino. «Hai mangiato?» chiese. Lui allungò la mano e ne prese un pugno. «Piano!» disse lei, ma gli permise di infilarsi in bocca gonfiando le guance come palloncini. Mentre masticava, la studiava con gli occhi inflessibili. Quando mandò giù il boccone, si laccò le labbra, lasciando uno strato di colore sulle labbra. «Vieni qua», disse Elena. Bagnò il fazzoletto con la punta della lingua e pulì il viso del bambino, che non si tirò indietro. «Ora sei a posto. Io mi chiamo Elena». «Lunque», accennò il bambino. Poi la guardò e si corresse. «Lui qua non è mica un cane da guardia». Elena guardò il bastardino. Si era accucciato accanto a lei e quando si accorse che lo stavano guardando, iniziò a scodinzolare. «Ah no, non mi sembra proprio», disse. «Ho provato a insegnare a fare la guardia». «A me, l'umper, proprio smè. Non mi sembra un cane stupido, mi sembra dolce. A me sembra stupido. Quanti anni ha? Non lo so. E tu?» Il bambino ci pensò un po', fissando l'aria dietro la testa di Elena, poi disse: 7. «E ci vai a scuola?» «È estate, non si va a scuola». «Non è proprio estate». Lui spostò lo sguardo al cielo, poi disse: «Le mucche sono agitate, dopo non fanno il latte». Poi guardandola aggiunse: «Io mi chiamo Serra Mario, abito lì». Elena sorrise. Era un bambino vispo. Si alzò e lo prese per mano, incamminandosi verso le case. Aveva la mano grande per un bambino della sua età. La pelle del palmo era ruvida e spessa come quella di un uomo. Il cane s'accodò tenendosi a distanza. Quando arrivarono vicino alla casa più grande, proprio di fronte alla chiesa, Elena si slacciò il fazzoletto che aveva al collo e se lo mise in testa. Non fu un gesto calcolato, lo fece senza pensare. Il suo aspetto da partigiano era inconfondibile, ma forse era il caso di diluirlo un po'. Sapeva che alcuni contadini temevano i partigiani tanto quanto i tedeschi e non era sua intenzione peggiorare le cose. Guardò il muro contro cui erano state eliminate le persone. Il ricordo era forte e preciso. E se chiudeva gli occhi poteva vedere la scena come se ancora fosse lì davanti a lei. Sulla ghiaia, però, non c'erano tracce di spari o del sangue. Era come se nulla fosse mai successo. Forse gli alberi avevano assorbito la tragedia, l'avevano trasformata in ossigeno, lasciando che il tempo si prendesse ogni ricordo. Comunque non era certo che le persone avessero dimenticato tutto, e presto ne ebbe conferma. Uscì per prima la donna anziana che aveva preso la bambina dalle braccia della sorellina più grande. Corse verso Mario urlando e lo strappò dalla mano di Elena, dandogli una sberla sulla nuca che lo obbligò ad allontanarsi in fretta. La donna disse qualcosa a Elena, accompagnando le urla con ampi gesti dalla mano. Anche se non capiva quello che stava dicendo, il messaggio che le arrivava era chiarissimo. «Aspetti un attimo, signora, per favore», disse, sentendo la sua voce. La donna si avvicinò e con un sussurro molto simile a un lamento disse: «Va vi diavol!». Una dopo l'altra uscirono diverse donne e si portarono davanti a lei con aria ostile. L'avevano quasi accerchiata. Una di loro indossava un grembiule sporco di farina e teneva in mano un mattarello. Non lo stava brandendo contro di lei, ma la guardava con aria minacciosa, facendole capire che avrebbe dovuto andarsene. Elena cercò la ragazza, ma non la vide. Invece scorse Mario, spingere tra le gambe delle donne e lanciare urla in dialetto. Proprio quando le arrivò accanto, si avvicinò una donna che lo prese per un orecchio e lo portò via. obbligandola a entrare in casa e chiudendo la porta di legno alle spalle. Continuo a ferque, ah vigliaca! La signora Don Mattarello si era avvicinata un poco, aveva fatto segno alle altre donne di fare silenzio e aveva lanciato quella domanda come se fosse una pietra. Vorrei... Fan fat che qua non va niente. A santi povret. Vu porter via ancora poca roba che va? Signore, io non sono qui per questo. E allora vattene, disse. Poi si avvicinò e con il braccio sinistro le diede una spinta che le fece perdere l'equilibrio. Non aveva paura, era solo dispiaciuta. Si rese conto che quella gente era impaurita e disperata più di quanto avesse immaginato. Non c'era modo di parlare con loro, almeno non in quel momento. Forse aveva sbagliato ad andare lì. La distanza che la separava da quelle persone era così ampia che non bastava un gesto di buona volontà per colmarla. Ma proprio quando si era convinta ad andarsene, la porta della casa si aprì e la giovane madre si affacciò sulla soglia. Aveva lo stesso vestito dell'altra volta e i capelli neri erano raccolti in una coda che le arrivava fino alle spalle. Fece un passo avanti e chiuse la porta, impedendo a Mario di uscire. Restò ferma per qualche istante, lì sui gradini, poi si incamminò verso di lei. Le donne si erano girate a guardarla e alcuni di loro sussurrarono qualcosa. Ma la ragazza continuò a camminare. Superò il cerchio senza preoccuparsi di niente e si piazzò davanti a Elena, con uno sguardo fiero. Allora prese coraggio e le gettò le braccia al collo, stringendo così forte da soffocarla. Era una ragazza alta, quanto lei, e dal fisico atletico, con due grandi seni che le premevano contro il petto. A parte questo, si somigliavano, anche se si capiva perfettamente, guardandole lì avvinchiate, che provenivano da mondi ben lontani tra loro. Restarono immobili, con gli occhi delle donne puntati addosso. Poi la ragazza si staccò e le diede un bacio sulla guancia talmente lieve che Elena quasi non lo sentì. «Mi chiamo Anita», disse. «Elena, Mario mi ha detto tutto. Ti ha riconosciuta, è un bambino coraggioso». Le prese le mani, poi raggiunse. «E grazie anche per i mirtilli, a lui piacciono un sacco, ma con la guerra non ce lo teniamo mai da casa, tranne quando è necessario. Era un po' che non ne mangiava». Elena la guardò, doveva avere solo qualche anno più di lei, ma la pelle attorno agli occhi era già segnata da rughe leggere che disegnavano una randatela chiara sulla pelle cotta dal sole. Aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus. Trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini. La storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Thank you. Tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Cavezza e la mitraglia, legge Massimiliano Gollini. In casa si sedettero al tavolo della cucina loro due sole, attorniate dalle donne in piedi. La colpì soprattutto il silenzio degli oggetti, l'arredamento essenziale, l'odore di cenere e farina ai piatti cucinati in povertà. Sulla stufa a legna stava bollendo dell'acqua in una pentola di coccio e il vapore faceva sobbalzare piano il coperchio, producendo un rumore sordo. Dal fondo della cucina arrivò anche il vecchio. Teneva in mano un fiasco di vino rosso e tre bicchieri, che riempì con estrema cura. Ne allungò uno a Elena e l'altro ad Anita, mentre tenne per sé il terzo, che alzò al cielo con aria solenne. Non fece in tempo ad avvicinarlo alla bocca che una delle donne glielo tolse di mano con uno sguardo severo. Il vecchio imprecò in dialetto e uscì dalla stanza tra i sorrisi di tutti. «Non importa», disse Elena, «non voglio disturbare». «Non fare storie», la rimproverò la donna con il mattarello. «Se non lo bevi tu, lo beve quello lì». Anita prese il suo bicchiere e lo alzò verso Elena, dicendo solo «Allora grazie». Bevero in silenzio a piccoli sorsi. Elena non era abituata a bere vino, non riusciva a riconoscerne la qualità. Mandò giù un liquido scuro e un po' acido e sorrise con garbo. «Non devi ringraziarmi, era una cosa che andava fatta», disse. «È perché sei tornata che ti ringrazio. Volevo conoscerti». Da quel giorno Mario obbliga le sue sorelle a dire una preghiera per te prima di addormentarsi la sera. Non proprio per te, per chi ci ha salvate. Ma ora che sappiamo che sei stata tu, però non so se quelle già fatte valgono lo stesso. Elena sorrise e cercò i bambini nella stanza, ma non li trovò. Sono di sopra, disse Anita. E perché non prega lui direttamente? Perché dice che gli uomini non devono pregare. Ti pare? Anita fece un cenno alle altre donne e quella con il mattarello si alzò. «Ben, na vignin da fer?» chiese la donna rivolgendosi a tutti. «Augusta, va a prendere i panni che andiamo giù al lavatoio. Demo finché al Saul!» Era divertente vederle muoversi tutti assieme. C'erano delle gerarchie precise tra loro e nessuna faceva un gesto fuori posto o inaspettato. Quando uscirono, la cucina le sembrò ancora più grande e silenziosa. Anita si sporse sul tavolo, la scrutò attentamente e disse: «Tu hai fame?» «Non importa, grazie. Sembri una che non mangia da un anno.» «Sono sempre stata magra.» La ragazza si alzò, fece il giro della cucina e raggiunse una madia di legno sul cui piano c'era una cesta coperta da un canovaccio di cotone bianco. Con le mani valutò la consistenza del pane e alla fine scelse un pezzo abbastanza morbido e lo portò sul tavolo. Poi lo spezzò in due. «Prendine un po', altrimenti il vino ti dà la testa», disse. Tornò alla stufa e dalla pentola prese due grosse patate che posò in un piatto. Si chinò, aprì le ante di legno della madia e rovistò finché non trovò quello che stava cercando, mettendolo nel piatto insieme alle patate. Infine tornò al tavolo. «Dove avete trovato il sale?» chiese Elena. «Sale? Quale sale?» rispose Anita facendole l'occhiolino. «Davvero, Anita, non è necessario. Mangia!» Appena si portò il pane alla bocca, si accorse di avere lo stomaco così vuoto che quasi le venne la nausea. Aprì la patata in due con la punta delle dita e poi ci soffiò sopra per disperdere il calore. Poi la rovesciò e la sfregò nel piatto. «Dove siete?» chiese Anita. «Dico con la tua brigata». Elena rispose senza distogliere lo sguardo dal piatto. Prima di parlare, aspettò di mandare giù il boccone. «Lassù, oltre al bosco. Stai con Lupo?» «No.» «Beh, siamo tutti con lui, ma io sto con Ghiaccio, una specie di gap di montagna, il branco.» «Niente meno, tutti parlano di voi.» «Davvero? Spero bene», disse Elena con un certo orgoglio. «I tedeschi non tanto.» «Hai contatto con loro?» «Da civile, dico.» «Non sono una spia, se è questo che mi stai chiedendo», disse Anita con tono fermo. «Non pensavo a quello», rispose Elena. «Quando sono stati qui, c'era una che parlava in italiano e ci ha chiesto di voi. Ci ha detto che se non gli dicevamo la vostra posizione ci avrebbero fucilati tutti. E voi non avete collaborato?» «Invece sì. Mia zia Orlanda ha indicato la direzione che avevate preso e se avesse saputo dove vi rifugiavate l'avrebbe detto senza problemi, ma loro ci hanno messo al muro lo stesso. Vedi che faccio bene a non dirti dove siamo?» «Non fraintendere, Elena. Qui tutti odiano i tedeschi, combattiamo la stessa guerra. La differenza è che usiamo armi diverse.» Le due ragazze restarono in silenzio per qualche minuto, mangiando lentamente. Poi Anita prese una mano di Elena e la guardò attentamente, prima il dorso, poi la mano, le dita, infine le unghie. «Non mi sembri una di qui», disse, «non con queste mani.» Elena se le guardò, poi riprese a mangiare. «A me sembrano così grosse», disse. «Non erano così prima.» «Non sono grosse.» «Le mie sì, guarda.» Anita allungò le braccia sul tavolo avvicinando le mani a quelle di Elena. Erano gonfie di muscoli e callose di terra, eppure sembravano curate, per quanto possibile. «Vengo da Bologna. Sono quassù per combattere.» «Davvero? Non potevi farlo giù in città?» In quei mesi le avevano fatto quella domanda più volte. La scelta di spostarsi in montagna non era subito comprensibile. «Sì, certo, ma sono venuta qui.» «Da quanto tempo?» «Novembre 1943. «Elena è il tuo nome o uno di quei soprannomi che usate voi partigiani?» È il mio nome, non ho un nome da battaglia. Prima che scoppiasse la guerra, conoscevo una ragazza che si chiamava come te. È un nome abbastanza diffuso. Veramente era l'unica che conoscevo, non che abbia mai avuto tante amiche. Si è sposata ed è andata in città a fare la sarta. Chi può se ne va, anche prima. Qui non c'è mai stato da mangiare per tutti. Con la guerra le cose sono peggiorate, ma non più di tanto. A parte i tedeschi, ovviamente, e i partigiani. Elena ha deciso di non sguainare la spada. Così disse, quindi hai 4 figli? 3. La più piccola non è mia. Ci è stata portata da una famiglia di Calescope. I tedeschi hanno ammazzato tutti laggiù. È rimasta orfana. Così l'abbiamo presa noi. Elena beve un sorso di vino un po' troppo lungo e un colpo di calore l'ha presa all'improvviso. Sentì il viso prendere fuoco. Forse dobbiamo metterci un po' d'acqua in questi bicchieri, disse Anita ridendo. Già, forse è meglio, riuscì a rispondere. Svelta, che se Alcide ci vede allungare il vino ci uccide, altro che tedeschi. Dopo aver mangiato, uscirono di casa e si incamminarono verso l'alto seguendo il campo. Poi oltrepassarono con un salto il piccolo fossato e proseguirono nel bosco tenendo sempre la sinistra rispetto alla vetta. Arrivarono in cima in breve tempo e lì si voltarono per guardare il poggio da una prospettiva più serena. Le case erano adagiate sull'erba e il campanile della piccola chiesa fermava lo sguardo, impedendogli di perdersi tra i castagneti. Più in basso, Prunaro di sotto era appena visibile. Restarono seduti sull'erba per molto tempo, senza parlare e senza imbarazzo. Il solo fatto di essere lì seduta a guardare le colline, come in una qualunque giornata di vacanza, le rendeva complici. Elena avrebbe voluto sapere tutto di Anita, dove fosse il padre dei suoi figli, come aveva vissuto quei mesi di guerra, come aveva trascorso la sua infanzia. E a pensarci bene, avrebbe anche avuto voglia di raccontare qualcosa di sé. Ogni tanto si sorprendeva con uno strano bisogno di confidarsi, di sapere che i suoi pensieri potessero arrivare alle orecchie di qualcuno che poi li raccoglieva e li custodiva. Ma a parte i discorsi che aveva fatto con Ghiaccio e Miscia, non aveva mai trovato il tempo e le persone giuste per farlo. La prima a parlare fu Anita. «Ho paura per i miei figli. Sono sicura di non riuscire a proteggerli». Non ci sarà sempre una partigiana di 20 anni che sbuca dal niente e che stermina un intero plotone di esecuzione con una mira infallibile. Io di partigiani come te non ne ho mai visti prima. Sono solo dei ragazzi. Quando arriverà il momento di mettere in gioco la pelle, inizieranno a scappare. Elena ripensò alle parole di Ghiaccio e ai fatti dell'abetone, ma non volle dar corda alla ragazza. Le disse che tra i suoi compagni c'era gente che aveva lasciato la propria vita per combattere i tedeschi, ma come poteva immaginare, non riuscì a farle cambiare idea. «Sono solo cigni scappati da casa per non essere rastrellati», disse Anita con tono deciso. «Non sapevano dove andare e sono venuti qui. Per i tedeschi siamo tutti ribelli e banditi, tu, io, i bambini, le donne, i tuoi amici partigiani. Se ce ne stiamo buone, se non ci facciamo vedere troppo in giro, se assecondiamo le loro richieste, allora abbiamo qualche possibilità di farcela. Altrimenti ci fucilano. Da queste parti siamo rimaste solo noi. Tutti gli uomini sopra i 15 anni o sono morti o sono nei boschi. Non abbiamo neanche la possibilità di difenderci. Ma i crocchi non sono qui per uccidere i civili. Certo, come no. Infatti ci hanno messo al muro per contarci. È stata colpa nostra quella volta. Voglio dire, i tedeschi non sono qui per ammazzare voi. Anche a Bologna c'erano i tedeschi, eppure non sparavano a ogni civile che camminava sotto i portici. Ci si può convivere se li accetti. E tu lo fai? Domanda inutile, non ti pare? Anita distolse gli occhi dal paesaggio e li lanciò proprio dentro quelli di Elena. Con un filo di voce disse, «Non scherzare con me. Qui non ci sono vie d'uscita. I tedeschi sono ovunque. Quando non ci sono loro, arrivano le camicie nere. E a volte arrivano insieme. Sono come una tempesta in inverno. Puoi solo rintanarti e aspettare che passi. È tutto qui. Ed è così da molto prima che arrivaste voi altri. Però, da quando vi siete messi in mezzo, la situazione è peggiorata. Non siamo in città. La montagna è diversa. Noi non riusciamo a organizzarci, non c'è da mangiare, non ci sono strade, mercati, negozi. Guardati attorno, i nostri uomini ve li siete presi voi, ma non li usate per difenderci. Poi sono d'accordo, se li lasci stare, i tedeschi non mordono, certo. Deve andarti bene che ti entrino in casa, che prendano le tue cose. Deve aver voglia di accettare tutto senza dire niente, di ricostruire tutte le volte. E quando si saranno presi l'ultimo animale, cosa faremo? Li scacceremo prima, Anita. Davvero? Domandò la ragazza con un sorrisetto sarcastico. Ero in città quando è arrivato il bombardamento, disse Elena cambiando discorso. Anita si girò e la guardò con due occhi grandi così. Quello dell'anno scorso? Esatto. Ero al mercato con un'amica, abbiamo sentito gli aerei, poi è crollato tutto. E come avete fatto a uscirne vive? Non lo so. Abbiamo iniziato a correre. I rifugi antiaerei erano irraggiungibili, così Albertina mi ha trascinato nel bar di mio padre. Siamo scese in cantina. Una scheggia mi aveva ferito e non riusciva a capire quello che stava accadendo. Si è stesa sopra di me. Se non ci fosse stata lei, non ce l'avrei fatta. Ne siamo uscite per miracolo. Dove ti ha ferito? Senza rispondere, si slacciò la camicetta e abbassò la spallina sinistra. Una profonda cicatrice viola incideva la pelle dalla spalla fino allo sterno. Anita si sporse in avanti per guardare meglio ed Elena vide il viso della ragazza ammorbidirsi in un'espressione dolce. Sfiorò la ferita con la mano, poi chiese: «Ti fa male?» «Solo quando sparo. Sono stata in ospedale per un po', mi hanno operata, si era sgonfiato il polmone, hanno sistemato tutto. Il problema è che sono mancina e devo appoggiare il fucile proprio qui». «E quindi come fai?» «Ho un tutore di cuoio, l'hanno costruito per me e i compagni». «Ma hai fatto una scuola per sparare così bene? Figurati!» «Solo un po' di addestramento quando sono venuta qui. La mira è una cosa che ho sempre avuto. In passato mi ha dato qualche soddisfazione». «E quella tua amica?» «Una domenica di novembre del 1943 sono venuta a sapere che i fascisti l'avevano fatta una retata nel quartiere ebraico. Sono corsa da lei, ma l'appartamento era già vuoto. Hanno deportato tutta la famiglia. Penso siano ad Auschwitz, ma non ne sono sicura». «Quindi ebrea?» «Sì, bastardi», disse Anita. Elena la guardò sorpresa. Era il primo accenno di una presa di posizione. «Vedi che siamo dalla stessa parte?» domandò mentre si riabbottonava. Anita non rispose subito, ma quando lo fece aveva già recuperato il suo sguardo severo. Io sono dalla parte della mia famiglia, niente più». Elena decise di non insistere. Per quella giornata avevano già fatto enormi passi avanti. Per qualche motivo si sentì colpita. Era assurdo, ma doveva accettare il proprio stato d'animo. «Non posso prometterti niente», disse. «Però vorrei tornare a trovarti. Magari nel frattempo faccio fuori un altro paio di tedeschi». «Perché vuoi tornare?» chiese Anita. «Non lo so», rispose Elena, «però mi piacerebbe. Se ti dà fastidio, fai come ti senti. Io non ho problemi». Quella sera non riuscì ad addormentarsi. Le capitava spesso, da quando era tra le montagne. Appena chiudeva gli occhi, i ricordi le entravano in testa come degli invasori e le rubavano il sonno. Qualche volta riusciva a respingerli, altre volte doveva uscire all'aperto e mettere ordine dentro di sé. Quando scese le scale, si accorse che Orso era ancora in cucina davanti al camino. Vide la sua enorme schiena muoversi lentamente. Sembrava il respiro di una montagna. Non capì se stesse dormendo o solo guardando le braccia spegnersi. Invece sentiva i compagni russare e riconobbe il brontolio notturno di Misha. Di notte parlava, in russo, e non c'era modo di farlo smettere. Aprì la porta senza far rumore e uscì nel buio. Era una notte ventosa, con una luna bianca che colorava l'erba davanti alla tezzola, trasformando il prato in un piccolo lago argentato. Nel guardarla, provò un freddo intenso, definitivo, come se percepisse la temperatura dell'universo. Camminò nella radura e raggiunse il pino in cima alla collina. Da lì i boschi sembravano privi di una dimensione precisa. Si sintonizzò sul fruscio del vento che passava tra gli aghi e cercò di capire se portasse con sé qualche buona notizia. Ma non percepì nulla. Appena tornata dall'incontro con Anita, Ghiaccio disse che era arrivata una soffiata di una contadina che abitava nei dintorni di Sperticano. Un soldato tedesco gli aveva confidato che stavano aspettando rinforzi. Non subito, ma entro la fine dell'estate sarebbero certamente arrivati. E il sospetto che si trattasse del battaglione di SS gettò un'ombra su tutto il branco. Guardò il cielo. Vide Cassiopea brillare nonostante la luce lunare. Individuò le ultime due stelle del grande carro e moltiplicò in linea retta la loro distanza per 7 volte finché non raggiunse la stella polare. Poi proseguì lungo tutto l'emisfero e toccò terra proprio su Monte Sole. Era un promontorio sulla pianura, selvaggio, coperto di querceti e castagneti. Riuscì a distinguere qualche luce. Su quel monte c'erano piccoli paesi come Cerpiano, Calescope, Caprara. A Casaglia c'era un cimitero e anche Prunaro di Sopa era da quelle parti, mentre in cima al colle si era radunato il grosso della Stella Rossa. Pensò ai contadini e alle loro famiglie. Erano allo stremo delle forze. Nessuno sapeva per quanto tempo avrebbero resistito. Voleva bene alla gente di Montesole e voleva salvarli tutti. Erano persone strette in una morsa implacabile. C'erano gli alleati da una parte e i tedeschi dall'altra. In mezzo, i partigiani che provocavano il rischio di rappresaglie e rastrellamenti. Ma soprattutto c'era la solita povertà endemica, la privazione continua, l'impossibilità di poter condurre una vita anche solo normale. Cercò di vedere le cose in un contesto più ampio, in uno sforzo di razionalizzazione che mal si adattava al suo carattere. Molti erano convinti che Bologna sarebbe insorta entro l'estate, ma doveva ammettere che ciò che stava accadendo era preoccupante e iniziava a capire i dubbi di Ghiaccio. Cosa sarebbe successo se gli alleati si fossero fermati o se i partigiani avessero smesso di combattere, o entrambe le cose? Da un certo punto di vista sarebbe stato meglio. I tedeschi sarebbero stati sconfitti in altre parti del mondo e la pace sarebbe arrivata insieme alla bella stagione. Ma il punto di non ritorno era stato superato e la guerriglia non si poteva più fermare. Aggirò la collina restando a mezza costa. Quando arrivò dall'altra parte, un mare di lucciole aveva invaso il bosco. Sembravano stelle. Non ne aveva mai viste così tante tutte insieme. Rimase lì a osservarle per un po' e nel frattempo il pensiero volò a Odino. Era tanto tempo che non lo vedeva. Ricordò la notte trascorsa ai giardini Margherita. Era stato un momento intenso, eppure anche leggero. La prima volta ti coinvolge così tanto che non pensi mai che possa essere unica. Raccolse un sasso e lo lanciò verso valle, dalla parte opposta. Un tiro forte e preciso, la cui corsa finì nella foresta sotto di lei. Si girò verso la tezzola. Tutto sembrava così tranquillo che la guerra le parve solo un sogno. Ma c'era qualcosa nell'aria che oscurava i suoi pensieri. Una corrente tiepida che viaggiava sotto traccia e arrivava furtiva, portando cattivi presagi. Non ci fece caso, o almeno ci provò. La carezza e la mitraglia. Legge Daniela Cotti. Settembre 1944, domenica, alba. Elena. Giunse a Prunaro di Sopra quando il sole era appena sorto. Ancora una volta fu il cane ad accoglierla. Arrivò scodinzolando e appena le fu vicino iniziò ad annusarla. Lei si abbassò per accarezzarlo e mentre lo faceva sentì qualcuno avvicinarsi. «Sei venuta a far la guerra?» Si alzò e vide Anita ferma davanti a lei. Nonostante fosse mattina presto aveva l'aria di una persona al lavoro già da ore. «Ero in missione, ho deciso di fare una deviazione. Non potevo liberarmi delle armi. Con quelle non ti faccio entrare in casa. E allora le lasceremo fuori. Vieni con me». Attraversarono l'aia e si diressero verso il granaio, che era proprio di fronte al casolare. Sotto c'erano le stalle, dove due mucche mangiavano fieno una accanto all'altra. Quando entrò, venne sorpresa da un'ondata di aria calda, accompagnata da un forte odore di sterco e di animali. Non era molto abituata a odori così forti, così alzò il fazzoletto che aveva attorno al collo fino a coprirsi il naso. Vide quattro gattini spuntare da dietro una colonna e si chinò per accarezzarli. «La loro madre è sempre in calore», disse Anita. «Non sappiamo più dove metterli. Li prenderei tutti io se potessi». Senza rispondere, Anita si arrampicò su una scala a pioli che portava dalla stalla al granaio, nella parte superiore dell'edificio. La seguì, muovendosi con cautela perché l'apertura era stretta e non era semplice passare di lì con il fucile. Quando raggiunse il piano superiore, si sistemò la giacca e si tolse il carcano dalla tracolla. «Mettilo lì», disse Anita, indicando un cumulo di paglia. Elena seguì l'ordine, senza opporsi. Non le piaceva l'idea di nascondere il fucile così lontano, ma capiva la situazione e non voleva indispettire Anita. Fece un buco nel fieno e ci infilò dentro il fucile, spingendolo a fondo, poi ricoprì tutto. «Anche la pistola se ne hai una», disse la ragazza. «La tengo in tasca, non la vedrà nessuno». Anita rispose con un'occhiataccia. «E va bene», disse Elena. Prese la Walther P38 e la mise accanto al carcano. Quando si girò nuovamente provò la strana sensazione di sentirsi nuda davanti ad una sconosciuta. «Così va meglio, e adesso vieni qua», disse Anita. Le diede un bacio sulla guancia e l'abbracciò forte. Quando entrarono in casa, le donne quasi non si accorsero di loro. Erano indaffarate nei lavori domestici e un paio di loro già al lavoro in cucina. Altri si stavano preparando per andare nei campi con le bambine che giocavano in un angolo del soggiorno. «Non vedo Mario», disse. «È sulla collina con Alcide. Stanno lavorando alle viti, dopo andiamo a salutarli». Accanto al cammino c'erano diversi bauli ammucchiati. Anita li indicò e disse: «Stiamo andando a Cerpiano. Possono ospitarci, ci sono già diverse famiglie. Dicono che è una zona neutra. E poi c'è una maestra che è venuta su dalla Gardelletta. I bambini devono andare a scuola, portiamo solo il necessario. E il resto lo lasciate qui. Cos'altro possiamo fare?» Arrivarono in cucina e Anita le indicò la sedia a capo tavola. «Ecco», disse porgendole un bicchiere di latte. Elena lo prese tra le mani e ne sentì il calore. «L'ho appena munto, poco prima che arrivassi tu». Beve un paio di sorsi restando in contemplazione. Non sentiva quel sapore da mesi. Sapeva bene che i tedeschi sequestravano gli animali e li portavano a valle nei loro accampamenti. Se non erano arrivati fino a Prunarro di sopra era solo per un colpo di fortuna. Quel latte era un bene prezioso come il denaro in tempi di pace. «Alcide non viene con noi», disse Anita. Si era seduta a tavola e aveva spezzato pane raffermo che inzuppò nel latte. Ne spostò un po' dal lato di Elena. «Perché?» chiese. «Non vuole lasciare gli animali», dice. «Secondo noi non vuole lasciare il vino, ma non può neanche rimanere qui da solo. Lo sappiamo. Le zie stanno provando a convincerlo. Non so se ci riusciranno. Forse qualcuna si fermerà con lui e proverà a portarlo via più avanti. Io vado su coi bambini». Elena inzuppò il pane nel bicchiere, spingendolo a fondo con il cucchiaio che condivideva con Anita. Si guardò attorno e ritrovò con piacere quell'aria calma e silenziosa che aveva già notato la prima volta che era entrata in quella cucina. Si appoggiò una mano sul petto e assaporò quella calda sensazione di pace di cui aveva tanto bisogno. «Quando parti?» chiese. «Entro 3 giorni al massimo. Partirei anche oggi, ma siamo ancora indietro. Forse ti ho scombinato i piani? Mi fa piacere che sei venuta, davvero. Adesso faccio bollire il latte, così quando torniamo ci mangiamo la panna. Cavolo, siamo delle signore oggi». Salirono la collina, seguendo la direzione presa la prima volta. Nonostante fosse già settembre, nei boschi l'autunno non sembrava ancora arrivato. Quando giunsero in cima, videro Alcide e Mario alle prese con le viti. Avevano entrambi una roncola in mano, ma il bambino era seduto su un carretto. Quando vide Anita, scese e corse verso di lei, attaccandosi alla sottana. «Quante volte ti ho detto di non correre con il coltello in mano?» «Oh, mamma!» Alcide dice che quest'anno verrà un vino buonissimo. «Bene, con tutto quello che ci manca, avevamo proprio bisogno di buon vino», disse Anita. Mario la guardò senza capire. Poi si girò verso Elena, dando l'impressione di non riconoscerla. «Ti ricordi di Elena?» chiese la madre. «Sei diversa», disse il bambino. Elena si inginocchiò per raggiungere la sua altezza e con il tono di voce più dolce che riuscì ad assumere disse: Sono solo vestita un po' più da uomo. Mi stanno bene questi vestiti? Mica tanto, rispose Mario. Poi si staccò dalla madre e corse di nuovo verso il vecchio. Le due ragazze si sedettero a lato del campo, volgendo lo sguardo verso valle. Nulla era cambiato, nemmeno il desiderio di rimanere lì per sempre, che Elena aveva provato fin dai primi giorni di vita in montagna. Pensò di dirlo ad Anita, ma per qualche motivo preferì non farlo. «Io mi sono sposata là», disse la ragazza, indicando la chiesa di Prunaro di sotto. Si vedeva solo il campanile superare in altezza il bosco. Sulla croce c'erano appollaiati dei piccioni. «Davvero?» chiese. «Sì, 7 anni fa. Ero già incinta, ma questo è un segreto. Come si chiama tuo marito?» «Paolo». «È nei boschi?» «No, è partito per la Russia. Non so più niente di lui. È sicuramente morto. Lo danno per disperso, ma dove vuoi che sia andato con quel freddo?» «Mi dispiace, molto. Il mio capo è stato in Russia. Se vuoi, chiedo». «Ti ringrazio, ma è una cosa che abbiamo superato. Le bambine è come se non l'avessero mai conosciuto e Mario se lo ricorda appena. La cosa buona di vivere in famiglie così numerose è che trovi sempre qualcuno disposto a farti da genitore. L'unica cosa è che di questi tempi non si vedono molti uomini e quando li vedi non sono lì per farti la corte». «Cavolo, hai proprio ragione», disse Elena con un sospiro. Anita si girò e piegò leggermente la testa in avanti. Restò così per un poco, con in viso un sorriso dolce che Elena ricambiò. Poi si slacciò il fazzoletto annodato sulla nuca e lasciò che i capelli le cadessero in avanti. Erano lunghi, neri e sembravano tenuti con cura. Elena quasi si vergognò del suo taglio da soldato e ringraziò di avere il cappello. Si domandò con cosa lavasse i capelli per renderli così lucenti. Ma quando si decise a chiederglielo fu sorpresa da una domanda inaspettata. «Ti va di fare un bagno?» «Cosa?» «Un bagno», ripeté Anita. «Vieni con me». Si alzò tendendole la mano che Elena strinse con forza. Camminarono per un po' nel bosco, poi iniziarono a salire. Elena seguì Anita senza fare domande e per qualche momento ebbe l'impressione che la guerra non esistesse. Non fu solo una sensazione, ma proprio un pensiero, una cosa razionale. C'era un mondo possibile oltre a quello che vedeva, dove le persone continuavano a vivere come avevano sempre fatto, accettando la guerra nonostante tutto. Arrivarono a una radura e lì si fermarono. C'era un piccolo stagno circondato da felci e rocce di granito, nascosto da una parte del bosco molto rigoglioso. L'acqua fumava e un forte odore di zolfo saturava l'aria. Anita si spogliò ed entrò in acqua nuda, mentre Elena si guardò attorno imbarazzata, come se qualcuno dovesse sbucare fuori da un cespuglio all'improvviso. Però il bosco era silenzioso e quando tornò con lo sguardo sull'amica, la vide in piedi con l'acqua all'altezza dei suoi grossi seni. Anita sorrise e fece un segno con la mano. «Non aver paura», disse. «Non c'è nessuno». Elena iniziò a spogliarsi, piegando con cura i vestiti e appoggiandoli su una roccia. Davvero non poteva credere a quello che stava facendo. Una volta nuda allungò il piede e toccò l'acqua, ma lo ritrasse subito. Era calda, quasi bollente. Guardò Anita con aria interrogativa. «Non chiedermi il perché», disse la ragazza. «Vieni dentro». Fece qualche passo in avanti e poi si tuffò. Fu una sensazione incredibile. Tutta la cattiveria e la paura e la tensione accumulate in quei mesi si diluirono in quel liquido scuro e sparirono. Si tappò il naso con le dita e andò sotto. La sensazione di vuoto si fece più intensa, amplificata dalle risate di Anita che arrivavano ovattate. Aprì gli occhi e nell'ombra vide le gambe della ragazza proprio davanti a lei. Aveva i piedi immersi nella fanghiglia e apriva e chiudeva le ginocchia come se stesse ballando. Allungò una mano e le pizzicò una coscia. Anita si ritrasse con un salto e cadde all'indietro finendo sott'acqua. Quando Elena riportò la testa fuori per respirare, si sentì prendere ai fianchi e trascinare nuovamente sotto dalle forti braccia di Anita. Restarono lì sdraiate, felici e incredule, con le teste appoggiate a una roccia, sperando che quel mondo fosse reale. E non parlarono. Di questo Elena fu molto grata ad Anita, anche se non glielo disse. Non faceva domande, non approfondiva mai gli argomenti personali, ma era disposta a parlare di sé, senza chiedere niente in cambio. Ecco perché le voleva bene. Quando stavano insieme era come vivere in un piccolo mondo ancora puro, effimero forse, ma dove tutto in fondo era ancora possibile. Avvolse le spalle della ragazza con il braccio sinistro e la tirò vicino a sé. Poi inarcò la schiena e abbassò lo sguardo per guardarsi i capezzoli. Spuntavano come due isole scure, sparendo e ricomparendo al ritmo del suo respiro. Anche Anita notò quel movimento, lasciandosi andare a un sorriso complice. «Ma dai!» disse. «Lo Stromboli e l'Etna!» sentenziò Elena. «Che cretina!» Poi arrivarono gli spari. Due colpi, tum, tum, seguiti da una raffica, oltre il bosco, verso le case. La realtà piombò su di loro come una valanga. Anita uscì dall'acqua con un salto e iniziò a vestirsi. Si muoveva tremando, infilandosi la gonna al contrario, faticando con la camicia per via della pelle bagnata. Invece Elena impiegò più tempo per assorbire il mondo in guerra. Quando ci riuscì, una rabbia furiosa iniziò a scorrerle nelle vene al posto del sangue. Si alzò, uscì dall'acqua, infilò solo i pantaloni e scarponi, indossò il tutore, legandoselo stretto sotto l'ascella. Non c'era tempo per il resto dei vestiti. Si guardò attorno, memorizzò tutto in una sola fotografia e assorbì quella sensazione di immobilità che l'aveva fatta stare così bene. Poi fissò Anita, sembrava pronta ad esplodere. E si avvicinò e l'aiutò con la camicia, indicandole poi le scarpe. Quando l'amica fu pronta, la prese per le spalle e la bloccò. Si guardarono per un attimo. In quello sguardo Elena mostrò l'anima, una volta ancora. Anita lo capì e l'abbracciò, ma poi la guardò di nuovo e fece una smorfia. Elena chiuse la mano sul mento di Anita, strinse fino a farle male e disse: «Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi, nella prossima mezz'ora tu fai quello che ti dico io, mi hai capito?» Anita non rispose, sbatté le palpebre velocemente, non riuscì a fare altro. «Bene», disse Elena, «e adesso, corri!» La carezza e la mitraglia. Legge Saverio Peschechera. Tre settembre 1944. Domenica. Tramonto. Elena. Abbiamo attraversato il bosco di corsa. Quando siamo arrivate a Prunaro di Sopra, i tedeschi stavano risalendo la collina. Erano a piedi, non più di 15, solo armi leggere. Ho provato a raggiungere le stalle per prendere il fucile, ma non ci sono riuscita. Così siamo entrate in casa dal retro e Anita mi ha dato dei vestiti perché mi scambiassero per una contadina. Avevano catturato tre ragazzi, molto giovani. Li tenevano legati l'uno all'altro con del filo spinato. Sono entrati in casa e un graduato alto e robusto ha indicato me e Anita e ci ha fatto uscire dal gruppo, spingendoci in cucina. Le altre donne e i bambini sono stati chiusi in una stanza al piano terra. Seduti al tavolo c'erano un ufficiale e un tizio grasso che sembrava un maiale. L'ufficiale aveva la divisa tutta in disordine, portava la giacca appoggiata sulle spalle e aveva la camicia fuori dai pantaloni. L'altro invece era molto elegante, con un paio di occhialini tondi, un cappello e in braccio un cagnolino. Era italiano. Ci hanno ordinato di preparare il pranzo e noi l'abbiamo fatto. Mentre cucinavamo, il graduato e il ciccione si sono messi a parlare. Sentivo arrivare urla da fuori. Avevano preso Alcide e lo stavano picchiando. «Chi è Alcide?» chiese Miscia. «Un vecchio che è rimasto con la famiglia. I tedeschi avevano già fatto uscire le vacche e hanno iniziato a fare il tiro a segno con i conigli, le galline e anche con i gatti. Vi rendete conto? Li tiravano in aria e gli sparavano. Alcide urlava e più urlavano. Cosa hanno detto mentre mangiavano? Miscia, quel graduato era Reder. Cazzo, come lo sai? Era senza un braccio». Hanno chiesto al ciccione di spiegare le caratteristiche del territorio, i sentieri, i paesi, le pievi, le chiese, tutto. Dove fossero i boschi meno frequentati, i campi coltivati e gli allevamenti di bestiame. Hanno voluto sapere dove erano le scuole, se c'era un ospedale, e il ciccione ha disegnato qualcosa su una cartina. Hanno detto che inizieranno tra qualche giorno. «Inizieranno cosa?» la interruppe Ghiaccio. «Non lo so», disse lei. «E poi cosa è successo?» Ho sentito delle urla ancora più forti, sono riuscita a vedere tutto dalla finestra. Avevano spogliato Alcide ordinandogli di entrare nella porcilaia. L'hanno spinto per terra, ridevano tutti e dopo un po' gli hanno sparato. Io proprio non so come ho fatto a... Stai calma, Elena, continua a raccontare. Quando hanno finito di mangiare sono usciti, ma il graduato alto è rientrato. Si è tolto il cappello e ha fatto un inchino. Poi ha detto, tra poco qui tutti caput. Così ha detto, poi ha sorriso e se n'è andato. Noi siamo corse nell'altra stanza, c'erano i bambini che piangevano, le donne che non riuscivano a calmarli. Così ho aperto la finestra e fatto uscire tutti dal retro. Sono scappati nel bosco, diretti a Cerpiano. Non so se ci sono arrivati. Misha guardò Ghiaccio aspettando una sua reazione. Poco dopo il comandante disse: «Bisogna andare dal lupo, subito». «Io però non sono andata via», continuò lei, come se non avesse sentito. «Li ho seguiti, nascondendomi nel bosco. Ho visto quella gente mangiare una gallina cruda, erano degli animali. Poi sono partiti mettendosi in marcia senza un ordine preciso. Li ho seguiti tenendomi sempre a 100 metri. Voi lo sapete che posso seguire un tedesco per un giorno intero senza farmi vedere, vero? Beh, mi hanno scoperto». «Come ti hanno scoperto?» «Non mi hanno vista, ma si sono accorti di me dopo meno di mezz'ora. Due di loro, più basse di statura e con visi strani, avevano la pelle rossiccia, quasi marrone, e gli occhi piegati agli angoli, così. Si sono staccati dal gruppo e hanno raggiunto il graduato alto, che ha fermato il plotone. Non ci crederete, ma si è voltato verso di me. Sapeva dov'ero. Hanno preso 3 prigionieri e li hanno legati a 3 alberi, stringendoli al petto con il filo spinato. Poi hanno sparato alle gambe, e mentre lo facevano il graduato ha continuato a guardare dalla mia parte, senza distogliere mai lo sguardo. Cazzo! Ma chi sono questi, eh? Misha, hai mai sentito? Mongoli, almeno credo. Le SS reclutano criminali disperati un po' ovunque. Non si è mai capito se è vero o no. In Russia ci credevamo tutti, anche se ufficialmente non abbiamo mai avuto conferme. Non ne sono sicuro, ma può essere che siano mongoli. Tu cosa hai fatto, Elena? Quei ragazzi urlavano, e più si dimenavano, più il filo spinato gli entrava nella pancia. Ma io ero senza armi, ho pensato che fosse una trappola. Se fossi uscita dal bosco, mi avrebbero sparato. E poi perdevano tutto quel sangue. Non sarei mai riuscita ad aiutarli. E così li ho lasciati lì. Sono tornata a Prunaro di sopra. Ho preso le armi e i miei vestiti e sono corsa qui. Ascolta, Ghiaccio, devi capire una cosa. Per tutto il tempo che quelli sono stati seduti a tavola, Reder non ha mai aperto bocca. Guardava dritto davanti a sé e mangiava, e ogni tanto faceva un cenno al graduato e questo partiva con una nuova domanda. Aveva gli occhi... Non era umano, Ghiaccio, non era un uomo. E poi un'altra cosa, hanno voluto sapere tutto di questi posti, ma non hanno mai chiesto di noi partigiani, mai. Dove siamo, quanti siamo, come siamo armati e organizzati, niente. Forse sapeva già tutto. Non ho avuto quella sensazione, ascoltando i loro discorsi. Penso di aver capito una cosa. E cosa? Che erano interessati solo ai civili. Aspettarono il ritorno di Ghiaccio e Misha seduti attorno al fuoco, in silenzio. Quando sentiva la tensione raggiungere il limite, Elena usciva per fare 2 passi attorno alla tezzola. La guerra saliva dalle terra afferrandole le caviglie, mentre la notte sembrava fin troppo buia. Arrivarono all'alba, mentre una pallida luce rossa colorava la parte più a est del cielo. Si era appena appisolata accanto al camino, seduta su una sedia con le braccia conserte e la testa appoggiata al muro. Si svegliò così frastornata che subito non riuscì a reagire alla velocità giusta. I 2 compagni entrarono senza salutare nessuno, sedettero al tavolo e bevero lunghe sorsate d'acqua. Non sembravano stanchi, avevano camminato tutta la notte, ma davano l'impressione di essere riposati come dopo una lunga dormita. Orso spezzò del pane e tagliò qualche fetta di formaggio, offrendo a tutti la colazione con un semplice cenno degli occhi. Ghiaccio mangiò in silenzio e quando finalmente parlò, diede l'impressione di selezionare le parole con una cura eccessiva. «Non dobbiamo preoccuparci. Gli americani stanno preparando un'incursione per sfondare la linea gotica. Non sappiamo ancora dove, questione di giorni comunque. I tedeschi sono rimasti isolati, con tutta probabilità cadranno. Lupone certo». Nessuno disse niente. Non tutti comprendevano il valore strategico di quell'azione e quando Misha se ne accorse lo spiegò al branco. «Se sfondano la linea, la strada è aperta fino a Bologna. Una spina nel fianco. È una buona notizia, ragazzi. È una buona notizia se ce la fanno», intervenne Elena. Gli uomini la guardarono e lei si sentì come durante un'interrogazione per la quale non si era preparata abbastanza. «Insomma, se passano siamo a posto, questo volevo dire». «Cerchiamo di restare ottimisti», disse Ghiaccio, riferendosi a tutti. «Gli alleati sono ben equipaggiati e sono tanti. Probabilmente hanno anche armamenti migliori. Bisogna aspettare e sperare che tutto vada per il meglio». Elena guardò i partigiani seduti attorno al tavolo. Vide nei loro occhi soprattutto stanchezza, ma anche un velo di preoccupazione. «Hai chiesto dell'SS?» domandò. «Certo che l'ho chiesto. Ho raccontato tutta la tua storia e ho cercato di metterlo in guardia». «E il lupo cosa ha detto?» «Niente, non ha detto niente». «Come niente?» «Ha alzato le spalle e mi ha raccontato la storia dello sfondamento della linea gotica, tutto qui». Ma come? Non è possibile che... Elena, è normale che i tedeschi chiamino rinforzi. La realtà è che sono circondati. Troveranno ovunque qualcuno che gli spara. Possono essere i militari più malefici del mondo, ma sono sempre in inferiorità. Se sfondiamo la linea, la situazione si risolverà in fretta. Lo guardò perplessa, ma non disse niente perché non voleva contraddirlo davanti a tutti. Aveva visto l'SS in azione e il fatto che gli alleati si spingessero così in profondità non avrebbe portato a nulla di buono per il territorio a nord della linea gotica. In quel momento non capì come Ghiaccio avesse potuto sottovalutare il problema, ma presto si rese conto che si sbagliava. Ghiaccio ha concordato con Lupo una ricognizione, intervenne Miscia. Facciamo passare qualche giorno, poi andiamo a vedere questo Raider e i suoi uomini da vicino, così capiamo anche quanti sono. Il russo guardò gli uomini uno a uno e ricevette da tutti un segno di assenso. Poi posò uno sguardo severo su Elena, facendola sentire in colpa. Non sapendo cosa fare, lei allungò la mano verso Ghiaccio e gli strinse il polso. Si scusò così, senza parlare. Fu lui a farlo, guardandola dritto negli occhi. Noi non sottovalutiamo il problema. Mai. Lupo è molto sicuro di sé. Forse sa cose che noi non sappiamo. O forse no. Prenderemo una posizione solo dopo aver visto. Va bene, Ghiaccio. Io ci sono. La voce le tremava. Prima però devi fare una cosa. Dimmi. Voglio che tu vada a Cerpiano. Ho saputo che c'è molta gente da quelle parti. Voglio sapere qual è la situazione, quanti civili ci sono su a Montesole. Così vedi se quella famiglia ce l'ha fatta. Parti subito. Torna nel pomeriggio. Elena strinse la presa più forte. La giornata era diventata cupa. Non pioveva, ma si avvicinava una tempesta che portava aria umida e densa. Aveva camminato di passo svelto, addirittura corso nei tratti di discesa. Era passata davanti alla chiesa di Casaglia e giunta al cimitero aveva imboccato il sentiero che scendeva nel bosco, superava un canalone e risaliva dall'altra parte, fino a Cerpiano. Percorse tutta quella strada con un unico pensiero in mente: arrivare il prima possibile. Quando vide Anita, le corse incontro e le abbracciò. Restarono legate per un po', poi si avviarono verso le case. Appena dietro la chiesa c'era l'oratorio e poco oltre un grande edificio bianco. L'intonaco era scrostato in diversi punti, ma non erano segni lasciati dalla guerra. C'erano persone nell'aia davanti alla casa ed Elena notò anche qualche anziano. Dove sono i bambini? Dentro l'oratorio. Stanno facendo amicizia con suora Antonietta Benni, la maestra. Sembra una brava persona. Sono molto contenta. Vieni dentro, ma non aspettarti troppo. A colpirla fu soprattutto l'oscurità. Un misto di buio e fumo e aria rafferma che le ricordò la cantina del caffè Beltrami il giorno del bombardamento. C'erano fuochi accesi in ogni stanza e le piccole finestre lasciavano entrare la luce del giorno giusto quel tanto per non andare a sbattere. Anche lì c'erano molte persone, tutte donne e qualche ragazzina che seguiva la madre nelle faccende domestiche. Attraversarono l'atrio e passarono per la cucina, infilandosi poi in uno stretto corridoio che portava a una scala. Alla famiglia di Anita erano state riservate due stanze molto grandi, proprio sotto il tetto. C'erano letti a castello di legno e qualche pagliericcio sistemato contro le pareti. Notò le valigie ancora chiuse e pensò che qualcuno fosse sceso fino a prunaro di sopra per prenderle. Rendendosi conto di quanto fosse tranquilla la situazione, Elena appoggiò il carcano in una delle due stanze, tenendo però in tasca la Walter. «Non è come a casa, ma neanche come stare in galera, credo», disse Anita con un sospiro. «Io mi trasferirei qui subito. Siamo in tanti, ma quassù sembriamo sole. Certo, il bagno non è comodo», lo disse indicando una finestrella che si affacciava sul lato est. Elena si sporse e vide la baracca delle latrine nel prato, appena prima dell'inizio del bosco. Vista da lì, sembrava lontana un chilometro. Si girò senza fare commenti, poi iniziò a ridere. Scesero le scale e uscirono all'aperto. L'odore di fumo aveva appesantito i loro vestiti ed Elena fu contenta di respirare un po' di aria pulita. Attraversarono l'aia sotto lo sguardo attento delle donne e degli uomini ed entrarono nell'oratorio sul retro della chiesa. Quando la vide, Mario si alzò dalla sedia e le corse incontro, abbracciandola all'altezza dei fianchi. I bambini erano seduti in semicerchio attorno a una ragazza giovane dall'aria allegra. Non sembrava una suora perché non aveva l'abito religioso. Nella stanza c'era un'atmosfera frizzante e vivace, anche se i bambini erano seduti composti. ne contò circa 10, di età diverse. Dopo essersi avvicinata a Suor Benny, si presentò tenendole la mano destra, che era la strinse con vigore. Non disse che era una partigiana, anche se ebbe l'impressione che la ragazza lo sapesse. «Mi sono spostata qui da poco», disse la suora. «Queste famiglie sono sfollate e i bambini hanno bisogno di un po' di scuola. Qui siamo al sicuro». «Quello che stai facendo è una cosa molto importante», commentò. «Stiamo tutti facendo del nostro meglio». Poi Antonietta Benny si girò verso i bambini e aggiunse: «Anche loro». Lasciarono che Mario tornasse al suo posto, poi uscirono. Anita la portò in chiesa e le disse che il parroco saliva da Casaglia ogni 3 giorni. Era una chiesetta minuscola, con una sola navata e un altare di pietra, che sembrava tutt'uno con il pavimento. Sul lato sinistro dell'abside c'era un vecchio armonio di legno scuro appoggiato al muro. Aveva un lato scolorito e al posto dello sgabello c'era una sedia impagliata. Vide Anita farsi il segno della croce e guardarla con aria interrogativa. Lei fece l'occhiolino, poi uscì all'aperto. Lasciò che l'umidità la avvolgesse. Non era una sensazione spiacevole. Aveva bisogno di liberare la mente dai pensieri che l'avevano sopraffatta per tutta la notte. Sentì il rumore secco di 2 rami che sbattevano tra loro e vide 3 cornacchi alzarsi in volo lanciando grida rauche. Pensò che avrebbe avuto voglia di farsi un bagno nello stagno caldo che le aveva mostrato Anita, ma non sarebbe mai stata capace di ritrovarlo. Quando l'amica la raggiunse, si avviarono sul sentiero che lei aveva percorso poco prima. Del vento si sentiva solo la voce, perché i castagni ancora verdi lo deviavano verso l'alto. Camminarono una accanto all'altra per un po', senza dire niente, allontanandosi dal casolare e dal rumore della gente indaffarata. Quando se la sentì, Elena prese per mano Anita e disse: «Sono venuta per dirti una cosa». «Davvero? Non per sapere se eravamo ancora vive?» «Vacca boia, sei sempre così polemica!» Anita le diede un colpetto sulla spalla, poi disse: «Dai, che scherzo! I tedeschi di ieri, penso che non siano come tutti gli altri». «Che cosa vuoi dire?» «Pare che stiano arrivando delle forze del sud. Si chiamano SS. Non so se ne hai mai sentito parlare». Anita ci pensò per qualche secondo, poi fece di no con la testa. «Non sappiamo il motivo per cui sono venuti fin qua. Forse dopo la liberazione di Roma e Firenze si stanno ritirando. Magari questa è una semplice tappa di passaggio prima di andare a fare la guerra da un'altra parte. Gli alleati presto sfonderanno la linea gotica e, non so, forse presto tutto finirà per il meglio». «O forse no», disse Anita dopo una pausa. «Non mi sembri convinta». «Eppure il comando è tranquillo. Io mi fido solo di te». Quelle parole in qualche modo la confusero. Si fermò e guardò l'amica per un po', sentendo di non poterle mentire. «Senti, Anita, secondo me c'è qualcosa che non va in questa situazione. Quello che abbiamo visto ieri mi preoccupa. Non sono di passaggio, altrimenti non avrebbero voluto sapere da quel ciccione dove sono i civili. Non hanno mai chiesto di noi partigiani. Dico solo che bisogna stare attenti. Avverti tutti di non allontanarsi da casa. Racconta chi sono le SS e cosa hanno fatto, e di loro che ne stanno arrivando altri. Non fate uscire i bambini da soli e preparatevi a scappare». Elena mi era appena tranquillizzata. «Siamo ancora in guerra, Anita, altrimenti adesso saresti a casa tua e non a Cerpiano. Non dovete abbassare la guardia». «Beh, senti, se vengono fin qui per ammazzarci, quando li sentiremo arrivare sarà troppo tardi». «Farò di tutto per avvertirli prima». «E come farai?» «Siamo in contatto con tutti i gruppi della valle. Questo è uno dei punti più alti e prima di arrivare qui i tedeschi incontreranno partigiani ovunque. Li fermeremo e io verrò per avvertirvi». Camminarono ancora un po' nel bosco, ognuna aspettando che il proprio umore si stabilizzasse. Elena aveva cercato di essere sincera con Anita, pensando in questo modo di proteggerla. Non era il momento di nascondere la realtà, dietro strati di parole non dette. Certo, avrebbe potuto essere più rassicurante, questo doveva riconoscerlo, ma la diplomazia non era certo il suo forte. Dopo poco Anita fece una deviazione e le mostrò 2 rifugi. Erano buchi profondi un paio di metri, il cui ingresso era nascosto da uno sportello di legno coperto di foglie e rami. Quando scese al loro interno per vederli, si rese conto che ognuno poteva ospitare almeno 10 persone. Il fatto stesso che quella gente avesse pensato a scavare dei rifugi la convinse che fossero persone in grado di percepire il pericolo che stavano correndo. Era qualcosa a cui aggrapparsi. Arrivarono alla casa a mezzogiorno. Elena se ne accorse perché sentì il suono delle campane delle chiese sparse tra le montagne. C'era ancora qualcuno che si occupava di farle suonare, nonostante tutto. Entrarono in cucina e Anita iniziò a cercare qualcosa nella dispensa. Arrivarono alcune donne della famiglia di Anita e una di loro si avvicinò per farle una carezza. Fu un gesto silenzioso e delicato che lei accolse abbassando lo sguardo. Uscirono all'aperto con pane, un po' di formaggio e un uovo sodo. Fecero il giro della casa, passarono accanto all'orto e al pollaio. Poi si sedettero sotto un pioppo. La vallata si apriva in tutta la sua grandezza. Era un lato di Montesole che Elena non aveva mai visto, perché era sempre stata impegnata in azioni organizzate più a sud. Pensò che se avesse potuto incamminarsi attraverso quei canaloni, sarebbe arrivata a Bologna entro sera. Era così vicina la città. Sentì arrivare un'ondata di malinconia che respinse, dando un morso al formaggio. «È un bellissimo posto», disse con la bocca piena. «Già. Tra qualche giorno faremo una missione di ricognizione a Sperticano per vedere questi nuovi tedeschi con i nostri occhi. Vogliamo capire chi sono e soprattutto quanti sono. L'abbiamo visto, saranno stati una ventina. Era solo una pattuglia. Ti ricordi del tizio senza un braccio? Ah, come potrei dimenticarlo? È un colonnello e si chiama Walter Reder. Uno così non si sposta senza il suo battaglione. Se non sono già arrivati, arriveranno a breve. Sarà un'azione pericolosa? Non saprei, ogni azione lo è. Diciamo che in questa non ci muoviamo per sparare, ma solo per guardare. Se vedo cose strane, vengo a dirtelo. È un po' che vorrei farti una domanda, disse Anita guardandola. Elena rispose con un gesto della testa, così la ragazza disse: non mi hai mai detto se sei fidanzata o se lo eri prima della guerra. Si girò verso sinistra per guardare Anita e restò così fin quando non si sentì sicura. Poi disse: ho un fidanzato che si chiama Odino. È partito per l'Africa ancora prima che scoppiasse la guerra. Di lui non so più niente di ufficiale. Non è nelle liste dei morti e dei dispersi. All'inizio ci mandavamo delle lettere, poi hanno smesso di arrivare. Da quel momento ho iniziato a vederlo, come se fossero dei sogni, ma molto più veri. Non so se puoi capire. Sono convinta che abbia disertato e che stia tornando a casa, però da quando sono qui non lo vedo più. In una visione mi ha detto che dovevo leggere una lettera, ma non è mai arrivata nessuna lettera. Parlò tutto d'un fiato e dopo si sentì come se si fosse liberata di un peso. Si girò di nuovo verso Anita, aspettando una sua reazione. La ragazza la guardò e disse: «La verità?» «Cos'altro?» rispose. «Io non credo a queste cose». «Immaginavo, non sei il tipo. Però non vuol dire che non sia vero. Cioè?» «Magari ho torto, dico sul serio, sono una persona pratica, ma questo non significa che tu non abbia ragione». «Sono molto confusa in realtà». «Lo capisco, questa maledetta guerra finirà. Torneremo a casa e da lì ripartiremo. Non chiedermi in che modo, perché non ne ho idea». La carezza e la mitraglia. L'ultimo a leggere per questa quarta puntata è Mark Tibaldi. «12 settembre 1944, martedì, missione Mlada. Elena. Eccola lì, ancora nel buio, ancora in guerra, il carcano sulla schiena, il tutore legato stretto, in pieno controllo. Guardò il bosco senza smettere di correre. Si spostava insieme al branco mantenendo la posizione con precisione, usando l'istinto, muovendosi sotto traccia. Non vedeva i suoi compagni, ma sapeva esattamente dove erano. Provava un senso di grandezza in quello che stava facendo. Quella sensazione profonda data dalla consapevolezza di cogliere il senso generale delle cose. Era una guerrigliera, lo sapeva bene. Attraversarono la foresta seguendo il declivio fino a valle e quando arrivarono al fiume Setta si fermarono. Si contarono raggruppandosi lentamente, poi aspettarono l'ordine di ghiaccio per guadare. In quella stagione l'acqua era bassa, ma a parte orso tutti si bagnarono fin sopra la vita. Si sfilò il carcano dalla schiena e lo sollevò sulla testa con entrambe le mani, procedendo lentamente. Quando arrivò al centro del fiume si accorse che la corrente la spingeva verso destra. Corresse la traiettoria e spinse con più forza sulle gambe. Arrivò dall'altra parte dopo Orso, prima degli altri. Avevano camminato per 2 ore nella notte senza parlare, ma presto l'oscurità non li avrebbe più protetti. Era Misha che gestiva le operazioni. Alzò il pugno e fece 3 segnali ben distinti, ognuno dei quali provocò un movimento. Ultimo e Orso partirono verso destra per raggiungere la parte nord dell'accampamento tedesco, mentre Ghiaccio e Mezzanotte presero la direzione sud. Al terzo gesto, Elena si mosse in avanti, scelse l'albero giusto e lo raggiunse. Era un castagno e l'aveva scelto perché abbastanza alto e con le grandi foglie ancora verdi. Salì fino alla cima, sistemandosi in sicurezza e guadagnando una vista perfetta su tutto l'accampamento. Se fosse stato necessario, avrebbe potuto sparare senza farsi vedere. Sentì Misha correre verso nord per raggiungere la postazione di Orso e Ultimo. Gli uomini si sarebbero ulteriormente divisi, accerchiando il campo da 6 direzioni diverse. Chiuse gli occhi e restò in ascolto. Sperticano era una frazione soffocata su 2 colline, chiusa in una gola, arroccata poco più in alto del fiume. Il sole raggiungeva la valle solo in piena estate e in quel momento era impossibile distinguere le case. Strinse le braccia attorno al corpo e abbassò il capo. Aspettò mattina in quel modo. Quando riaprì gli occhi, la luce del sole aveva alzato il sipario sul paesaggio. Alcuni carri armati erano allineati nel campo che partiva dal Setta e arrivava fino al paese. Cercò di distogliere lo sguardo dai tank per guadagnare una visione d'insieme, ma era così impaurita e insieme attratta da quella scena che non ci riuscì. Se quelle macchine si fossero messe in moto, non ci sarebbe stata la possibilità di fermarle. Poteva solo immaginarne la potenza di fuoco, la loro capacità distruttiva. Poi vide l'artiglieria pesante, 5 cannoni. Con quelle armi i tedeschi avrebbero potuto colpire le postazioni della Stella Rossa o degli alleati senza spostarsi da quella posizione, per non parlare dei civili, dei loro casolari, delle chiese. Sentì le mani prudere, le sfregò sui pantaloni, ma non servì a molto. Istintivamente sfilò il carcano dalle spalle e lo impugnò con forza. Verificò il caricatore e si rimise in posizione di sparo. C'era qualche soldato di guardia lì attorno e rimpianse di non avere un mirino ottico. Avrebbe voluto vedere quella gente in faccia prima di ammazzarla. Sarebbe stata una vera soddisfazione. Accanto ai carri armati c'erano delle tende da campo, ben costruite e allineate con precisione. Vide i soldati uscire pigri a gruppi di 3, 4, si stiracchiavano e indossavano l'elmetto, dirigendosi verso le latrine. La processione andò avanti per almeno mezz'ora e quando finì, Elena valutò che potevano esserci almeno 1000 uomini attorno al paese, più quelli che stavano occupando le case. Era un vero e proprio esercito. Il 16° battaglione esplorante, comandato da Walter Reder, era arrivato. E non era certo di passaggio. Elena cercò i suoi compagni nel bosco, ma non li vide. Sentiva il bisogno di un appoggio anche se a distanza, perché tanti tedeschi, tutti insieme, non li aveva mai visti prima. Sembravano invincibili. Non aveva pensieri utili e nessuna idea precisa, solo il desiderio di essere altrove. Si domandò dove fossero i civili, ma fu contenta di non saperlo. I suoi pensieri corsero ad Anita e alla sua famiglia. Si trovavano a 1 giorno di cammino, forse di più se a muoversi era un esercito. La percezione della distanza la tranquillizzò un poco. Era l'unico appiglio che aveva. A metà strada, tra le tende e il centro del paese, c'erano le cucine. Erano organizzate su un paio di carri, su ciascuno dei quali armeggiavano 3 soldati tra pentoloni e fuochi. I camerati si erano disposti su più file. Alcuni avevano in mano una gavetta, altri usavano l'elmetto come scodella. seguivano un ordine complesso ed efficace e svolgevano quella routine in silenzio. Vide il soldato alto e robusto che aveva pranzato assieme a Reder nella cucina di Anita. Doveva essere appena uscito dal grande edificio che dava sulla piazzetta, perché prima non si era accorta di lui. La colpì il suo portamento regale e l'impeccabile divisa. Il lungo impermeabile nero sfiorava il suolo e il suo passo era così deciso che i lembi del vestito si sollevavano come se fosse un mantello. Arrivò fino al centro della piazza e si fermò, guardandosi attorno soddisfatto. Poco dopo lo raggiunse un altro soldato, giovane e magro, più basso di lui. Camminava guardandosi gli stivali e portando in mano una tazza fumante. L'altro la prese senza degnarlo di uno sguardo. Poi gli fece cenno di andarsene. Poco dopo arrivò Reder. Lo riconobbe dall'aspetto un po' trasantato, dalla divisa sgualcita, dalla camicia fuori dai pantaloni e naturalmente dal fatto che gli mancava un braccio. Accanto a lui c'erano altri due soldati. Erano quelli che Misha aveva identificato come mongoli. Si chiese se tutto il branco stesse guardando quello che vedeva lei. Ora nessuno avrebbe più avuto dei dubbi. I due asiatici si avvicinarono alle cucine e presero pezzi di una gallina direttamente dalla fiamma, incuranti del fuoco vivo. Superarono le file dei soldati senza che nessuno dicesse niente e quando finirono di mangiare, uno dei due si incamminò verso il bosco. Probabilmente aveva bisogno di scaricarsi e non voleva usare le latrine. Elena lo seguì con gli occhi e si rese conto che il mongolo si stava avvicinando alla posizione di ghiaccio e mezzanotte. Era certa che i compagni si fossero nascosti bene, ma si ricordava perfettamente della capacità che avevano dimostrato di accorgersi di lei pur senza vederla. Prese il fucile e mirò alla schiena dell'uomo, seguendo fino a quando non sparì tra gli alberi. Aspettò in posizione per qualche minuto, ma non lo vide uscire. Guardò l'accampamento. La situazione sembrava tranquilla e Reder si era spostato vicino alle tende, seguito dal graduato e dall'asiatico rimasto. Si muovevano con un'andatura fiera, convinti di non correrne alcun pericolo. Erano in territorio nemico, ma si comportavano come se fossero a casa loro. Poi qualcosa cambiò. Il mongolo si arrestò all'improvviso e si voltò verso il punto esatto nel quale il camerata era sparito nel bosco. Era come se gli si fosse accesa una spia di pericolo nel cervello, seppur con qualche attimo di ritardo. Tutti si girarono verso di lui e il soldato iniziò a correre. Sentiva l'urlo fin lì. Si portava dietro rabbia, una vena di disperazione e almeno 20 soldati. Erano diretti verso ghiaccio e mezzanotte. Se quel mongolo avesse avuto le stesse capacità dell'altro, li avrebbero trovati subito. Un attimo dopo sentì Misha, Orso e Ultimo correre sotto di lei e mentre passavano il russo chiamò e lei capì. Imbracciò il fucile, si mise in posizione e chiuse gli occhi. Sapeva di non avere tempo, ma quel gesto era indispensabile per trovare il contatto con l'arma. Era il fucile che le diceva quando e dove sparare e lei doveva aspettare il momento giusto, altrimenti avrebbe mancato il bersaglio. I tedeschi stavano raggiungendo il bosco a una distanza di circa 250 metri. Videre il mongolo correre in mezzo al gruppo. Iniziò a sparare mirando a quelli più avanti. Il primo tiro lo sbagliò, ma il secondo andò a segno e così gli altri. Caddero 5 soldati. Poi fu costretta a ricaricare. Fu veloce, come sempre, ma non così veloce da impedire ad alcune tedesche di infiltrarsi tra gli alberi e sparire alla sua vista. Quando riprese la mira, il piccolo soldato si era fermato e la stava guardando. Era l'unico ad essersi accorto di lei. Prima che Elena riuscisse a sparare, l'uomo fece uno scarto verso destra e si buttò a terra, riparandosi dietro un blindato. Lo sentiva urlare, ma non lo vedeva. Cercò i serbatoi senza trovarli, così aprì anche l'occhio destro. C'erano almeno 10 soldati che stavano correndo verso di lei. Sentì una sirena suonare e capì che un intero battaglione stava entrando nel bosco sul lato sud. Non aveva molto tempo. Il piano prevedeva una serie di possibilità di fuga e Misha era stato chiaro. Se si fossero verificate certe condizioni, ognuno doveva pensare per sé. Appena la sirena cessò di urlare, sentì gli spari e le grida dei tedeschi e subito dopo l'esplosione di una delle granate di ultimo. Guardò i soldati che si stavano avvicinando. Non poteva ucciderli tutti. L'unica possibilità era scendere dall'albero e scappare. Ma aveva un conto aperto con quell'assassino. Elena valutò la situazione e decise che poteva concedersi un tentativo. Impugnò il fucile e lo cercò con il mirino. Era difficile tenerlo sotto tiro perché correva zigzagando, assicurandosi la copertura dietro i corpi dei soldati accanto. Quel maledetto sapeva di essere sotto tiro. Elena non si scompose, puntò i piedi sul ramo e appoggiò il gomito destro sul ginocchio. Aspettò che il bersaglio si sentisse al sicuro e sparò al soldato che gli faceva da riparo, abbattendolo. I due correvano così vicini che il soldato mongolo non riuscì a evitare il tedesco. E allora Elena sparò di nuovo. Lo colpì al petto e lo vide volare poco più avanti. Eppure non morì. Si rialzò, trovò l'equilibrio e riprese a correre verso di lei. «Porca puttana!» imprecò. Si caricò il fucile sulla schiena e saltò giù dall'albero. L'impatto con il suolo fu violento, ma lo strato di humus che circondava il castagno attutì il colpo. Iniziò a correre con tutte le sue forze, sentendosi inseguita dalle grida dei tedeschi. Stavano avanzando la cieca, ma erano veloci e presto l'avrebbero raggiunta. Quando se ne rese conto, si buttò di lato e si riparò dietro una roccia, coprendosi alla meglio con terra e foglie. Puntò il fucile verso la parte del bosco dalla quale sarebbero sbucati, aspettandosi il peggio. Eppure i soldati non si accorsero di lei e le passarono accanto senza fermarsi. Iniziò a piovere all'improvviso. Sentì le gocce cadere sulle foglie che la coprivano e un odore di terra bagnata e muschio. Restò immobile, spostando solo gli occhi. Pensò che in uno scontro ravvicinato non avrebbe mai avuto il tempo di cambiare il caricatore. Perciò appoggiò la pistola accanto al viso. Aspettò molto tempo, ma non accadde nulla. Le urla andavano affievolendosi e anche gli spari cessarono. Iniziò a sentire freddo e sapeva che di lì a poco avrebbe cominciato a tremare, perdendo la possibilità di difendersi con la solita precisione. Per questo motivo decise di alzarsi. Si scrollò di dosso la terra e le foglie bagnate, raccolse la pistola e si girò verso la direzione dalla quale era venuta quella mattina. Appena iniziò a camminare, vide due soldati. Erano proprio di fronte a lei, con i mitra puntati. Uno di loro era il mongolo. Non più di 15 metri, poteva vederli in viso, addirittura sentirne il respiro. Guardò l'asiatico. Una striscia di sangue partiva dalla parte destra del petto e scendeva fino ai pantaloni, fermandosi sugli stivali. La rabbia e il dolore avevano trasformato il suo ansimo in un ruggito. Si mosse per prima e fu veloce. La Walther P-38 sparò un colpo preciso e il tedesco più alto cadde a terra, rimbalzando sulla schiena. La raffica arrivò subito dopo. Elena si gettò dietro la roccia e sentì diversi tonfi accanto a sé. Un proiettile la colpì, graffiandole il braccio destro e strappando la stoffa della giubba all'altezza del gomito. Trattenne il dolore in una smorfia. Appena sentì il mitra zittirsi, uscì allo scoperto e sparò d'istinto, senza guardare, colpendo il mongolo ad una gamba. Lo sentì urlare mentre cadeva. A quel punto sparò 3 colpi, mandandoli tutti a segno. Guardò il bosco. Non c'erano tedeschi, o almeno così sembrava. Raccolse il carcano e riprese la strada. Si conclude qui la 4ª puntata della maratona di lettura di La carezza e la mitraglia. L'appuntamento è per domani, sempre alle 9, su Radio Virus, e vi auguriamo un buon 25 aprile a tutti.